sarà capitato anche a voi di avere un casino in famiglia, il padre che scopa la figlia, il nonno Finocchio che incula il marmocchio. La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Dopo quasi 30 ore sveglia me ne vado a dormire proprio a perdi sensi, ma prima 5 minuti di zanzara, brutti stronzi. La mia ragazza si incazza perché mentre sono con lei vuole attenzioni, ma a me non me ne fotte un cazzo, metto il podcast della zanzara al massimo e mi faccio i cazzi miei. Caro amico, caro senatore Antonio Razzi, ci conosciamo da un sacco di tempo. Prima di scrivere i discorsi in Parlamento, prima di parlare nell'emiciclo, no Parenzo? Posto così importante come il Senato, hai un amico qui che, insomma, voglio dire, sì, non sarà il campione del mondo della lingua italiana, perché faccio conduttore radiofonico anche in maniera un po' sporca, diciamo, no? Però quando mi ci metto, quando mi impegno, quando voglio studiare, quando mi ci metto con la testa, riesco anche a fare da ghostwriter. Allora, io dico una cosa, caro amico senatore Antonio Razzi. Cioè, tu ti candidi a fare il ghostwriter? No, non mi candido, non è quello, però insomma, ci conosciamo, come se un tuo amico ti chiedesse un consiglio, no? Sì. No, o una mano per fare una cosa, gliela dai questa mano? Ci che ne so, altro, se il tuo certo. amico, il senatore deputato Fiano, che ne so, altre persone sì, che conosci, sì, certo. ti dicono, senti, mi dici una cosa, mi ci scrivi un passaggio di una cosa e tu... ci mancherebbe. Senza retribuzione, senza danaro lo fai, no? Ma ci mancherebbe ecco, altro. Anche io l'avrei fatto. Allora, invece di andare sì vai per Razzi come per altre persone. Sì, lo so, tu vuoi marcare la differenza per Razzi. No, non voglio. No, però prego. Ti dico, caro senatore, chiedimi qualcosa, dimmi qualcosa prima, fammi leggere almeno un testo, amico mio. Non puoi andare al Senato a fare queste figure di cacca, perché è una cosa pazzesca. In alcuni momenti, anche risentendo, non abbiamo capito una mazza qui. Allora, sentiamo questa super cazzola. Al Senato si parlava ovviamente di che cosa? Io non vorrei più parlarne, lo so. Vorrei cancellare la parola omosessuali, gay, unioni gay, stepchild adoption, adozioni. Lo so, tanti mi scrivono messaggi, basta gay. Avete ragione. Ma che cosa ci posso fare se in Parlamento si parla di questo? Parleremo anche di altro. Parleremo del mio amico Vinciullo, un altro mio amico, il signor Vinciullo, deputato siciliano, il quale dice che non arriva alla fine del mese nonostante gli 11.000 euro, che in realtà non sono 11.000 ma sono 15.000, eccetera, eccetera, di tante altre cose. Però partiamo da questo, dalla supercazzola di Razzi al Senato. Mi scuso ovviamente per la mia ignoranza in questo caso avvalorato da una praxi di vita milionaria, e cioè una donna, questo me lo concederete, se la scienza, gli operatori psicologico infantile, della psichiatria e dei disturbi comportamento non sono stati interpellati, se da questi non è pervenuto mai uno studio accurato e meticoloso sulle conseguenze comportamentali e caratteriali dei bambini adottati da due genitori dello stesso sesso, non credete che azzardiamo uno sconfinamento di competenza irresponsabile? Hai capito qualcosa? scusami un momento. Ma io ho capito che gli era scritto qualcuno, perché è andato. Ma sì, certo. C'è ma stato anche qualche errore però. Nelle virgole, nelle cose di battitura, di battitura. Andiamo oltre, aspetta. Il nostro compito, signori colleghi, è quello di legiferare, di adeguare le normative alle esigenze dei nuovi millenni, sì, all'evoluzione dell'uomo e in tutte le sue manifestazioni, e quindi anche nell'unione civile, una volta posto il problema, che è indubbiamente un fondamento. No, ma è l'ultimo passaggio, una volta posto il problema, che è indubbiamente un fondamento. Ma di che cosa? Ma lo so. Mancano soggetti, una verbi, volta posto il problema, che indubbiamente che indubbiamente ha un fondamento. Una volta dovrebbe essere così: una volta risolto il problema, sì, quello forse delle adozioni, Zioni, che indubbiamente ha un fondamento. Il però problema. se manca sì, la parte iniziale, se manca il verbo dopo, indubbiamente, certo, diciamo, forse noi le costruzioni, no, latine. Ma noi che siamo esperti del linguaggio razziano lo possiamo, sì, capire, no? Certo. Noi che siamo dei tecnici, perché lui mette il verbo in fondo come in latino, non lo mette forse, proprio, cioè non lo mette. Forse non lo mette. Non c'è, lo mette, sì, no? Non è che lo mette, lo omette. Proviamo a fare una puntata della Zanzara tutta così, cioè omettendo i verbi, ad esempio. Questo, è difficile, non è un'impresa. Ma provaci, ma guarda, è veramente difficile. Va bene, Berlusconi si è messo a parlare ieri sera nel programma di Mirta Merlino del suo rapporto con la madre. Uno può dire chi se ne frega, e molti di voi avranno detto chi se ne frega sicuramente. Sono uscite fuori alcune cose, in parte interessanti, in parte no. Io me ne fotto totalmente, però ve le faccio ascoltare. Per esempio, non voleva che entrasse in politica, ma la cosa curiosa non è tanto quello che ha raccontato Berlusconi su Mamma Rosa, perché è tutto abbastanza noto, ma è la reazione del professor Cacciari, che ho trovato meraviglioso. Non l'hai vista questa cosa? Perché no, sei a Siena. Ma una cosa, no, perché sono, sei a Roma adesso. Ah, sei a Roma adesso. Ma scusa, non senti diverso il... È vero, infatti mi sono stupito di questo. Ieri ero a Siena. Pensavo fosse ancora sono... a Siena, siccome facevi la doppietta di solito. Facevi la doppietta, che non è la tripletta di Semproni. La doppietta. Ti spiego perché. No, se no, vuoi. No, adesso, ecco, adesso no, mi chiedi, mi Berlusconi in ballo, e Mamma Rosa della serie sti cazzi, però no, era molto interessante Berlusconi. Beh, vabbè, tu non puoi dire, non puoi, no, dire, no, non, no, puoi dire diversamente. Io aspetta, ti dico che era, aspetta, molto interessante. Aspetta, aspetta. Mi disse: io sono, rimango contrarissima a che tu faccia questa scelta, realizzi questa decisione, ma non saresti più il figlio che io e tuo padre abbiamo pensato di educare, se tu, sentendo così forte il dovere di farlo per il tuo paese e per gli italiani, non ti trovassi anche il coraggio di farlo. Vabbè, questa è la spiegazione del Berlusca sul nel momento in cui decide di entrare in politica. La mamma non è d'accordo, poi invece dici: no, ma se te la senti, tradiresti te stesso. Tutte queste puttanate. A un certo punto, alla fine dell'intervento di Berlusconi, arriva il professor Cacciari. Professor Cacciari? Meraviglioso, senti. Ben trovato, Cacciari. Saluti. L'ha seguita l'intervista di Berlusconi? Come le è sembrato, Berlusconi che parla della madre? Credibile, sincero? Tremendo. Ah, tremendo. Ah, grazie, partiamo subito. Perché tremendo? Intanto è ignobile fare un'intervista dove uno parla e straparla di politica. Praticamente metà un comizietto sul suo ruolo politico senza, ma, interlocutori. Non, quindi, condivido, perché parete che il comizietto non se condivido evitato, neanche io, però, non condivido neanche io. Cambiamo discorso, perché va bene, se no cambiamo, va, discorso. Però scusami, ma uno può dire: cambiamo discorso, se no me ne vado. Però, scusa, ma è il numero uno, ma, no, ma, cioè, ma bene, è il numero uno assoluto. Siamo d'accordo, ma dai, su, adesso, al di là, no, del fatto che noi abbiamo le amicizie che abbiamo, io... ma sì, ma può piacere o non, ma piacere, ma è numero, quello, uno assoluto. Ah, sì, ma non discuto su quello. Ognuno può gli ha detto, i Berlusconi tremendo, intervista ignobile, sì, vabbè, comizietto, ma quello, cioè, ma l'ha massacrata in 3 secondi. No, ma non discuto su quel giudizio di Cacciari, ognuno c'ha il suo, ma discuto sul fatto che appena uno gli fa un obiezione, no, non mi roba, me ne vado. Altrimenti, ma me ne vado, no, discuto solo su quello. Isola solo la fine. No, io poi sul resto non è che entro nel merito, non mi interessa. Per ognuno, per forza, perché no, ma diciamo la verità. Do una valutazione, allora, io, diversa, diciamo la verità, adesso non è l'argomento, diversa, non è l'argomento fondamentale. Do una valutazione diversa. Aspetta, a me quello, aspetta, che ho visto mi fai, piaciuta mi fai molto dire o no, mi fai dire o no. Allora, io dico questo. Cacciari è il numero uno per come reagisce, se ne sbatte i coglioni di stare in televisione, di dire una conduttrice è un'intervista di merda, sempre, eccetera. No, dicendo che è un'intervista di merda, praticamente ha slinguato Berlusconi, eccetera. Però non si poteva fare diversamente. cioè non era un'intervista politica, era un'intervista sulla madre di Berlusconi. Sì, è chiaro, ma non è che vai là a dire la madre di Berlusconi andava con gli marocchini sotto casa, cioè non è per dire, questo no, non si può no dire, ma non si può dire. Ma no, ma la cosa interessante è la reazione di Cacciari, che tu, se tu lo contraddici, no, non mi dico così, altrimenti me ne vado. Sì, sempre così. No, sempre è solo così. Quello sempre che sempre così. Resta. Don Fanzaga insiste, il vero nemico è il diavolo. Basta, io non ne posso più di queste cose. Quindi, nonostante tutte le critiche, tutte le cose, eccetera, eccetera, io non lo vorrei mai sospendere. Dovrebbe essere Radio Maria a dirgli, amico mio, senti, non è che puoi dire che augurare noi funerali a una senatrice... Continua a dire che è vero nemico il diavolo. Vabbè, ragazzi, ma c'è chi ci crede. C'è chi crede al diavolo. Cioè, Parenzo, per esempio, crede al diavolo. No. Sì, tu credi al diavolo. Ma l'hai detto l'altra volta? Come no? Ho detto credi al diavolo. Tu credi al maligno, al diavolo. Io sono là al maligno. Credi al maligno e al diavolo. Ma non sì, credo sì, me l'hai detto l'altra volta. No, no, me l'hai detto, me l'hai diavolo. Detto in fondo credo al diavolo. Ma no, ho senti, detto che per chi è credente la presenza del Satan, cioè del diavolo, c'è, ma non è il diavolo in quanto diavolo. In ebraico si chiama il Satan. Bellissimo, il Satan. Aspetta, questa è stupenda. In ebraico il Satan, bello. Sì, che non è il Satan. Questa cosa mi ha sollevato, mi ha sollevato, non è il Satan, no, è il Satan, bravo, quello dei vegani o dei cose. Senti, il Satan. Senti Fanzago. Satan! Ti piace Satan la parola? Moltissimo, moltissimo. Immaginavo. Però il vero nemico è il diavolo, il quale sta sperando un attacco, ha detto la Madonna, sta sperando un attacco contro la famiglia per distruggerla. E dice, vedete come Satana vuole trarvi nel peccato e nella schiavitù. Ma tu sta offensiva di Satan, la stai vedendo o no? Con le truppe, non con so se l'offensiva è il Satan. Di Satan. No, non so se ho l'iPad che non mi funziona, non so se ecco, è il Satan. Quello è Satan. O semplicemente uno stronzo che me l'ha rotto. Basta guarda. Con sta storia di Satan, di Satana, del diavolo. Non esiste il diavolo, basta. Ma a me che sto in Islanda, che stracazzo me ne frega delle strade in diretta? La Zanzara. Peppino, stasera vieni con quel tanga rosso che hai visto sabato notte. È di una sensualità. Allora, non puoi dire che è una coincidenza, no, anche questa. È tutto falso. Io non capisco perché questa gente continua a mandare messaggi che sembrano veri, di presunte notti che io passo con qualcuno. Strano, però. Mutande lasciate. Tu ma sai no, che no, ti no. Rispetto e rispetto i tuoi ma nuovi come... gusti. Ma non c'è nessun nuovo è gusto. Strano, ecco. Ma un po' è... anche mi dispiace perché la tua fama di Trombeur de Femme, di no, Casanova, dei miei coglioni. No, Trombeur è la tua traduzione volgare. La Razzi, Trombeur. Trombeur de Femme. Mi dispiace. Però io ti faccio ascoltare adesso. Tutto finito così. No, ti ma io ti sono vicino, cioè capisco la tua no, cambio ma non di c'è scelta. Nessun cambio di scelta, ma guarda, assolutamente male, no. Dai. Allora, per adesso no, dico per adesso no. C'è una clinica in Russia, adesso questa cosa qua che sentirete farà incazzare un po' di gente. Credo che si chiami Sweet Child in inglese, è a Mosca, fa la procreazione assistita, ma anche l'utero in affitto e sostanzialmente puoi scegliere tutto di un figlio, il colore degli occhi, il colore dei capelli, la carnagione, con possibilità di riuscita molto alte, cioè puoi ordinare un figlio qualsiasi età tu abbia, una coppia ovviamente eterosessuale, forse anche omosessuale, non lo sappiamo. Abbiamo fatto questo esperimento con una clinica in Russia. Sentite, per me non c'è nessun problema, cioè a stipulare questo contratto, cioè se una coppia vuole farsi un figlio, per me non c'è nessun problema. Per Parenzo evidentemente sì, come sappiamo si tratta di un mercimonio, qualcuno ha parlato addirittura ieri, Giovanardi, di schiavitù. Ma sentite questa cosa. Vera, здравствуйте. Buongiorno, chiamo dall'Italia, parlate in italiano? One moment. Buonasera. Sto parlando con il centro clinico per la maternità surrogata? Sì, giusto. Volevo chiedere delle informazioni. Certo. Senta. Lei come si chiama? Io mi chiamo Colombo. Colombo. Da quale città? Milano. Mm-hmm. Senta, io e mia moglie non abbiamo figli. Quanti anni hai? Io ho 55 anni, mia moglie ne ha 67 e per l'età non ne può più avere. Mm-hmm. E io volevo chiedere qualche informazione sulla maternità surrogata. Come funziona? Magari brevemente, senza rubarle troppo tempo. No, non mi rubo il tempo. Ad esempio, la donatrice come viene individuata? Sceglie lei. Io ho la possibilità di scegliere tra diverse donatrici. Certo, con le foto. Con le foto di donatrici e le foto di già suoi bambini, perché di solito questi genere di persone hanno già i bambini. Noi vorremmo un figlio con determinate caratteristiche che ci assomigliasse un po'. Le spiego, noi siamo, guarda, noi siamo entrambi coi capelli rossi, abbiamo la carnagione chiara, bianca, pelle molto bianca, mia moglie ha le lentiggini, io ho gli occhi castani, mia moglie li ha grigio-verdi, io sono anche abbastanza alto, quasi 1,90 o 1,88. E quindi è possibile da queste informazioni avere un figlio che assomigli di più? Certo. Ma per esempio capelli rosse, sì. Può essere un po' con gli occhi sarà un po' difficile, ma su capelli, su carnagione 100%. Il bambino viene allattato dalla madre, dalla donatrice, o possiamo portarlo via subito? Di solito qua la donatrice non vede il bambino. Cioè il bambino una volta partorito viene direttamente a noi? Sì, viene direttamente da persone che l'hanno il contratto. Capisco. La donatrice non vede il bambino. È tutto legale, voglio dire, io... Certo. Noi abbiamo i suoi giuristi, non ti preoccupare. Il bambino poi come si porta in Italia? Ci vogliono documenti, no? Cioè fate tutto voi con i documenti, perché sa, in Italia la burocrazia non è proprio... Colombo, allora io ho scritto le vostre domande. Io devo assolutamente sapere i costi. Certo. Cioè su quante, non lo so, circa 20.000, 30.000, 10.000, non lo so. Da cosa dipende? Dipende di donatrice. Cioè ogni donatrice ha il suo prezzo? Lei mi dica il suo budget, così posso parlare. Dal 20.000 a 30? Intorno ai 20 si può avere già un figlio? Ora lo spiego. Può essere il mio direttore, le voglio fare una bella offerta, capito? Quindi si può essere trattabile questa somma. Così ho chiesto il suo budget. Così ci parlo, ci vediamo cosa possiamo fare. Le spiego tutto nell'email e vediamo il prezzo. Va bene? Va bene. Allora aspetto... Buona serata, Colombo. Aspetto il mio email, va sì, bene? Sì. Grazie. Arrivederci. Di niente. Arrivederci. Arrivederci. Se vuoi puoi comprare un bambino, puoi addirittura scegliere i capelli, la pelle, che raccapricciante, con una riuscita al 100%, ma non c'è nulla di raccapricciante, perché è tutto abbastanza chiaro, tutto abbastanza limpido, c'è un contratto, però, bravo, che si fa, sentirlo, però sentirlo fa effetto, no? Sì, sì, possiamo, sì, certo. Cioè, sì, fa effetto, però ha ragione Galimberti da questo punto di vista. Se si usa la tecnica per mantenere in vita una persona, non si capisce perché non si debba usare la tecnica fino in fondo per ottenerla questa persona. Una volta che il bambino nasce è una vita, no, ma è impressionante che si possa trattare, che queste donne si prestano per anni a fare questa roba per denaro. Come si fa per denaro? Si fa tutto per campare meglio. Non è la stessa cosa nutrire per 9 mesi un bambino nel proprio grembo, lascialo scegliere a loro, e poi venderlo non è esattamente la stessa cosa. Lascialo scegliere a loro. Infatti in Italia è reato, attento, infatti questo in Italia per fortuna è reato. No, ma nella Cirinà non si vuole riconoscere quello, attento. Vabbè. Luca da Belluno, vai Luca. Alla fine sempre De Froci bisogna parlare. Dai, Luca, vai. Luca, sì, dimmi. Ciao. Volevo fare i complimenti per... Non ce ne frega niente dei complimenti, Luca. Dimmi che cosa vuoi dire in pochi istanti, perché dobbiamo chiudere, non dai. Non è un cazzo, no, ma i complimenti per la Tentina che è andato lì in studio, ok? No, volevo parlare di Giovanardi, che... Sì. Secondo me è una persona da esportare all'estero come idee, come ideologie, così. E vuoi sapere se per caso ha donato il seme? Ha donato il seme? Insomma, Nardi ha trovato il seme in qualche banca, non vorrei incorrere, volevo fare la figurazione. Cioè, vuoi sapere se ha donato il suo seme in qualche banca del seme, non so dove, perché, che cosa vorresti fare? Cioè, vorresti riprodurre un altro Giovanardi, dici? No, vorrei proprio evitare che mi capitasse questa disgrazia. Ah, ho capito, evitare la disgrazia di un altro Giovanardi. Fermi tutti, giornale radio. La zanzara, patrimonio mondiale dell'umanità. E anche la figa. La zanzara. Crociani, Parenzo. Domani l'orale di etica, responsabilità professionale per avvocati. E io, invece di ripassare, mi sparo il podcast della puntata di ieri della zanzara. Secondo voi lo passo l'esame se li faccio riassuntino dei deliri del diversamente giovane Giovanardi? Ciao dall'Australia. Però è bello preparare gli esami da avvocato in Australia sentendo le puntate della zanzara, Parenzo? Sì, pazzesco. Bisognerebbe sapere che fine ha fatto questo qui. Ma veramente ha mandato il messaggio ieri notte, per cui... Difenderà i canguri, difenderà. Luciani, sei proprio un cretino, sei. Ma come, così poco? Dai. Allora, della serie scontri in televisione, caro Parenzo, abbiamo il ritorno, beh, ci mancava un po', del professor com'è che si chiama? Librandi, imprenditore di Saronno. Sai che l'ho incontrato qualche sera fa al ristorante, in un noto e importante, anche molto costoso, ristorante milanese. Tu eri ospite, immagino. Ovviamente ospite, certo. Ti presento la mia compagna, professor Librandi, imprenditore di Saronno. Ti presento la mia compagna, ha detto, una giovane ragazza bionda. Vabbè. Ma è una cosa avvenuta in pubblico, per cui lo posso raccontare tranquillamente. Non lo so, sei tu che l'hai visto. No, l'ho visto io, cioè lo posso raccontare, non credo che sia un segreto. Stavo lì al ristorante davanti alla gente, questa è la mia fidanzata. Che ti devo dire? Allora, Librandi, questo Librandi contro Alsetta. Beh, amico mio. Dove l'hai? Alzetta era da me la domenica. Ma dov'era? Il lunedì ha fatto lo show dall'altra parte. Ti hanno fottuto. Me l'hanno fottuto subito. Tarzan. Signor Tarzan, quello che occupa le case. Tarzan, cioè, sì. Grande occupatore di cose. Lo sai che è una roba. È un criminale praticamente. Alzetta. No. Cioè, uno che occupa. Cioè, che di professione fa l'occupatore. Il criminale a Tarzan. Beh, ragazzi, ma scusa. Ma solo in Italia può esistere una figura di un personaggio. Non solo. Ma anche in televisione e ti spiega come si può occupare. Esatto, solo in Italia può esistere una figura. No, solo in Italia può esistere una figura. Che dichiara apertamente: io voglio. Sono il protagonista, l'ideatore delle occupazioni delle case. Solo in Italia può esistere una momento, cosa di un eroe nazionale. Io ma dico soltanto questo: un eroe nazionale. Molto bene. Scassare tutto, occupare. Ma specie no. La Radio 24, Piazza Indipendenza, per cortesia. Vabbè, oppure a chiudete. Milano, Viale Monterosa. Grazie. Abbiamo capito, adesso ci vuole qualche giorno ancora, ma abbiamo capito com'è che riesce a introdursi ogni volta nelle discussioni. Qual è il marchingegno che ha trovato il signor Capanna? Librandi contro Alsetta. Quando lei parla, vuol far vedere cosa? Lei lavora, ma lavora di che? Finanziamenti... che io ho cominciato a lavorare a 14 anni. Non me ne frega un cazzo. A portare non me ne frega un cazzo. Me ne frega tantissimo invece, capito? Allora, no, io perché a tal caso andiamo, no. Giro, hai capito? No. Okay. Hai capito? Ma cosa ha detto? Non ho capito, è proprio insultato. Ha detto non me ne frega, perché lui dice io ho cominciato a lavorare a 14 anni, quell'altro non me ne frega un cazzo a me, Alsetta, Librandi. Ragazzi, nonostante tutto io preferisco Librandi ad Alsetta, eh. ve lo dico molto chiaramente. A me uno che dice io di professione faccio l'occupatore di casa, no, ma non che di fa? Professione. Di mestiere, che fa sto Alzetta? Che fa? L'impiegato pubblico in, in aspettativa, che fa Alzetta di mestiere? Che fa? Zeta, Tarzan. Tarzan. Ma che fa? Ma Tarzan ma, lo sì, fa. Sì, da quella la sua. Non l'hai mai sentita sì, quella canzone? Come no, certo, ma la conosco. Ma che fa di mestiere? Che fa di mestiere Alzetta? Che cazzo dalle, fa di mestiere? Dalle case ai poveri. No, ma non dalle case ai poveri, dalle occupa le case, case ai e ci fanno entrare anche gli immigrati apposta in modo che non li possano cacciare poi. Lo fanno apposta. Certo, c'è tutta la strategia, certo. Ma c'è un ufficio a Roma. Allora, senti, c'è un ufficio con una via, un numero civico, tutta la luce del sole. Senti Zancan, che è il gioielliere che ha subito un furto, quello di Stacchi. Zancan, cioè. Io avevo un compagno di scuola del liceo che si chiama Zancan. Che tu ora hai fatto grandi Sky, battaglie con Zancan alla radio. Zancan, Zancan è un mio amico di Padova. Contro Librandi, sempre contro Librandi. Librandi viene sempre scelto a fare queste battaglie mediatiche, eh? Non so quanto ci creda. Vorrei chiedere al signor Stacchio, non è mai venuto in mente di... prima di prendere il fucile, se poteva invece chiamare le forze dell'ordine? Perché no, magari certo. Brandi, se avevo il tuo numero di telefono ti chiamavo te. Certo. Genio, genio! Chiamavo te il Brandi. Vorrei finire. Vorrei dire che se magari venivano chiamate le forze dell'ordine, che se volete le chiamiamo adesso, e in tre minuti sono ci stavano lì. Sparando addosso con Kalashnikov, no, chi è che chiamava le forze dell'ordine? Fucile. Dicevo, fermo, magari fermo un attimo, due posso fucile. Sono ma che cazzo libere, dici? Non ero ma più libero, cazzo, dici? Allora, a proposito di sparatorie, ladri, eccetera, eccetera, devo fare un applauso questa volta a Monsignor Tessarolo, cioè a un vescovo praticamente, il che è tutto dire, magari ha commesso delle nefandezze, non lo so, ma comunque speriamo di no, il vescovo di Chioggia, che sulla vicenda, l'ultima vicenda, quella di un tabaccaio che si chiama Franco Birolo, che ha sparato, come sapete, a un rapinatore, gli hanno dato 2 anni e 8 mesi, hanno chiesto un risarcimento di oltre... di quasi mezzo milione di euro, ha detto delle cose bellissime, devo dire, bellissime. Se l'è presa soprattutto con ironia, naturalmente, col giudice che ha condannato il tabaccaio, il vescovo, che Parenzo non è un esponente della Lega, è un sì, vescovo, sì, un vescovo, il quale ha detto: mi permette un'ironia, signora giudice, quello che non era riuscito forse a rubare il ladro da vivo, glielo ha dato il giudice, completando il furto alla famiglia. Un bel vitalizio ottenuto per i suoi familiari, con l'incidente accaduto lì nel suo lavoro di ladro. Cioè, praticamente ha utilizzato le stesse parole che uso io, che usano altre Salvini, persone. Sì. Ah, anche Salvini, chi se ne frega. Non solo, ha detto, se la legge e chi la rappresenta hanno il compito di educare all'uso proporzionato della forza nella legittima difesa, non bisogna neanche correre il rischio di trasmettere un messaggio del genere. Violenti, scassinatori e ladri, continuate tranquillamente la vostra criminale attività. Tanto qui siete tutelati per legge, perché nessuno deve farvi del male mentre siete nell'esercizio del vostro lavoro. Direi che qui un applauso per Tessarolo ci vuole, per Tessarollo, il vescovo di Chioggia. Va bene, andiamo a Comoda Valentina. Vai, Como, Valentina. Ciao Cruciani, dimmi. Io ti chiamo per l'utero in affitto. Io sono mamma di 2 bambini. Sì. Sicuramente mi sembra che parli di cose che non conosci. Ma io certamente non ho praticato l'utero in affitto, né ho dato il mio sperma per farlo, amica mia. No, ma a prescindere da quello, non è che quando uno affitta l'utero, faccio il bambino, l'ho sfornato, basta, te lo passo e sto bene così. Una gravidanza implica tante cose. Se sì. Una donna lo fa per soldi è perché è con l'acqua alla gola. Non lo so se sia per l'acqua alla gola, per arricchirsi ancora ragione, di più. Ha ragione la signora Valentina. Sì, ma può darsi pure che abbia ragione lei. Ma qual è il problema? Non ho capito qual è il punto. Se uno lo fa consapevolmente e lo fa per migliorare la sua posizione economica, d'accordo. È terribile. Ma ci sono tante cose terribili nel mondo, però. Ho capito, ma si possono. Infatti, lo Stato serve anche per vietare. In questo caso, invece, ci sono degli Stati che non e sono. L'Italia, per fortuna, non lo ha accettato. Vabbè, Valentina, qual è il punto? Non ho capito. Dottore, una città almeno non ha coinvolgimenti. Scusa, ma morali. Quando uno fa il bambino, allora. Ma è chiaro che ma è normale, a me tutto questo ma tutto questo stupore, ma sì, ma tutto questo stupore e questo immedesimarsi nella donna, quella donna lì che mette al mondo quel figlio già sa che cosa vuole fare. Cioè lo mette al mondo per dei soldi, per darlo poi ad altre persone, per cui il fatto che glielo levino dal seno è assolutamente normale, perché altrimenti sarebbe addirittura peggio se non glielo levassero, perché se non glielo levassero ci sarebbe quell'attaccamento, quel rapporto, quel legame ma che si viene. Ma l'attaccamento? Valentina, quella roba lì è una cosa. Gli ormoni e tutto quanto. Ho capito, ma è fatto apposta per quello, glielo levano apposta. È grave, va vietato. Vabbè, per te va vietato, per me no. Che ti devo dire, Valentina? Federico, Torino, vai. Finalmente ce l'hai fatta. A che fare? A dire una cazzata che mi ha catturato l'attenzione. Non pensavo mai che tu potessi arrivare a dire una cosa del genere. Ma che cosa? Non ho capito. È da tempo che dico che io sono a favore dell'utero in affitto. Io sono a favore di questa compravendita, perché altrimenti sarebbe illegale. Si farebbe illegalmente. Cioè si farebbe lo stesso. Illegale, No, si farebbe lo stesso. Si farebbe lo stesso. Capito? Ma al di là della finta morale, che poi alla fine a me non è che mi interessa poi più di tanto. Per mi cui i paesi assurdo. Lo regolamentano in maniera diversa, naturalmente. E certo, fa impressione sentire, come abbiamo sentito, che uno può avere un figlio con i capelli rossi, con la pelle bianca, con gli occhi di un certo tipo. Quella cosa lì, ho capito, amico mio. Quando c'è un mercato, c'è un mercato. Vai lì, consulti una. Cioè, non è che si può pensare di fare infatti le cose. Esistono mercati illegali, no? Mi pare. Ma questo evidente. È legale. Cioè, in quei paesi, in quei paesi è legale, dai. Su. Per fortuna nel nostro, no, questo stiamo dicendo. Poi. Per vabbè. Fortuna ho trovato l'unico lato positivo del fatto che vivo in Italia. Vabbè, Federico, ciao. Andrea, provincia di Monza, vai. Andrea? Sì, mi senti? Sì, ti sento, dimmi. No, io volevo parlare del caso di meningite in Toscana. La meningite in Toscana, non ho sentito nulla, che è successo? Come no, ne hanno detto prima il giornale radio. Vabbè, sono distratto, penso ad altre cose. Potrò non sentire tutto il giornale radio o no? È stato bene, è stato sono bene. Sono esentato da questo o no? Assolutamente sì. Vai Andrea, dimmi, comunque meningite in Toscana, 50, che succede? 50 casi da inizio anno con 7 morti. Dunque? Allora, in Toscana stanno procedendo vaccinazioni di massa. Vabbè, dunque? La meningite da dove arriva? Arriva dall'Africa. Ora, chi ha portato la meningite in Toscana lo sappiamo benissimo. Il problema è un altro, il problema è come riuscire a sistemare i problemi dell'Africa. Allora, noi abbiamo una popolazione africana che aspetta, lui sta dicendo che la meningite arriva dall'Africa, dunque? In 60 anni la popolazione africana è quintuplicata. Dunque, mettiamo che sia così, che bisogna fare secondo te? Sterilizzare le donne africane dopo il primo figlio. Sterilizzare le donne africane dopo il primo figlio. Ma dove sterilizzare? Quando arrivano in Italia, direttamente in Africa? Dove? No, direttamente in Africa. Tutte le organizzazioni non governative cioè bisogna sterilizzare le donne africane dopo il primo figlio. Assolutamente, non è sostenibile. In 60 anni, Andrea anche da la Monza, più grande questo. Economia vabbè. Del mondo, provincia in 60 anni, vabbè, anche la più grande economia del mondo non sarebbe in grado di sostenere una crescita di 5 volte della propria popolazione. Ciao Andrea, Claudio Frosinone, vai. Ciao Cruciani Parenzo. Dimmi Claudio. Me l'ha levato una curiosità. Sì. Che ce l'ho da un sacco di tempo che penso a sentire. Ma Razzi, come fa a stare al Senato? Chi ce l'ha messo? Di Pietro e gli elettori. Prima poi. Di Pietro e poi gli elettori all'inizio. Poi Berlusconi. Ciao Claudio. Ciao. Ma i nazi vegani cosa danno da mangiare ai loro cani? Il tofu. State ascoltando un programma offerto da... Monge, il cibo naturale per cani e gatti con tanta carne fresca, senza coloranti o conservanti. La Zanzara. Tra l'altro, Parenzo, credo che lo facciano apposta a mettere la pubblicità del programma per i cani, proprio qui alla Zanzara. E allora io vi faccio ascoltare. Fanno benissimo. Sì, non lo so. Bel se programma. Fanno bene o male, ma no, chi se molto, ne frega. Fatto molto bene. Ma tu parli sempre bene di tutti, non c'hai una parola negativa per qualcuno, ce l'hai o no? Cioè, dipende. Ce l'hai, non lo so. Dipende. Allora, no, ma per qualche carità. Cornuto così tanto chiaro. A me non me ne frega niente, possono fare quello che vogliono, non sto a discutere un programma, eccetera, eccetera. No, ma un programma che giustamente si pone dal punto di vista del cane, ecco, pare tutto, il mondo giusto, visto dalla parte com'era la storia là. Il mondo no, però ti faccio ascoltare qualcosa perché io sono la felicità dei cani. Esatto, non riesci nemmeno a dirlo, questo no, è il punto. No, però, adesso ti faccio ascoltare un passaggio in cui si parla di animali, processi e medioevo, cioè si vuole dire, credo che nel medioevo si stava meglio in sostanza, cioè c'era più giustizia. Come stava meglio, medioevo? Senti questa cosa qua, perché chi dice stava c'è meglio, medioevo? La signora Celentano, che tra l'altro tra parentesi sì, forse anche ragione, tra parentesi qualcuno ha fatto notare ed è giusto così, che insomma no. Non dico niente sulla signora Celentano, ma è meglio, va. Sapete che ogni tanto noi parliamo del Medioevo come di un'epoca oscura. No, dove ma soprattutto di ritardati, di un po' di ritardati, nel senso che un po' grezzi, un po' aggressivi, un esatto. po' stupidotti. Eppure sembra che per qualche verso, anche se poi adesso andremo a sviscerare un po' bene questa cosa qui, sì? erano un po' più avanti di noi. Perché Diana ci ha raccontato che una volta l'imputato poteva essere un animale, cioè poteva essere interrogato e ritenuto responsabile, giusto? Esatto, esatto. Beh, amico mio. Non ho capito. Un cane responsabile di reati, ma non lo so, dicono. Dicono questi due signori insieme a degli esperti. No, va benissimo. Dicono, no. Sostengono. No, no, che non è che da questo punto di vista, considerando loro l'animale come un uomo, certo. Il fatto che si potesse avere un cane come imputato, giusto, sì. Lo considerano una cosa avanzata dal punto di vista della civiltà. Cioè, tu capisci qual è il ragionamento dietro, ragionamento, insomma, l'osservazione, chiamiamola sì, così. Sì, sì. E sono anche generoso. Da una parte. Voglio dire, è bello il fatto che, danno, come si dice, imputano all'animale un'intelligenza, una sensibilità. Da un'altra, però, secondo me è un processo perso in partenza per l'animale, perché come fa a difendersi e quindi fa una brutta fine. Poi cioè, viene giustificato il fatto che il processo finisca con una brutta fine per l'animale? Ma guarda, le fini che facevano questi animali erano veramente brutte, terribili. Capisci, no? Sì, si ragiona questa, intorno sì. All'animale e ai processi immediati. Okay. Vabbè. Razzi in Parlamento oggi. Razzi in Parlamento oggi, ragazzi. Oltre ai pezzi che abbiamo fatto ascoltare prima, la supercazzola di Antonio Razzi, c'è anche altro, c'è anche altro. Senti. I diritti del minore e la loro salvaguardia giuridica e il loro benessere psicofisico. Psicofisico. Noi, onorevoli colleghi, ci sentiamo competenti al punto tale da assicurare ai bambini adottati da due padri senza una mamma oppure da due mamme senza un padre che essi non patiscono turbe di carattere psicofisico tali da menomenarne la personalità nel loro normale iter di crescita? Io dico di no. Menomenarne. Va bene. Vabbè ragazzi, dove andiamo? Andiamo a Roma, Francesco, 800 24 00 24, 393 71 71 701 per chiamarci, anzi quest'ultimo è solamente per i vostri WhatsApp. Francesco, vai, Francesco. Pronto? Dimmi. Chiedo scusa, io innanzitutto ho votato Tarzan, Andrea. Hai votato Alzetta, ma tu puoi votare chi vuoi, se vuoi votare uno che promuove l'occupazione. Non deve fare venire di parlare, ti spiego, il criminale sei tu. Che istiga le persone. Io istigo quello occupa le case, io istigo le persone. Potrei parlare un attimo con il signor Parenzo. Sì, Parenzo sta eccolo qua, è qui, caro, sono qui. Signor Parenzo, chiedo scusa, ma ditemi una cosa, che pillole prendete voi quando sentite tutte queste porcherie e non vi sentite male? No, guardi, io ho sempre una bottiglietta d'acqua con del limone, perché allora così. Glielo dà Cruciani quando parla di Tarzan. Quello allora sta a Roma. Francesco, tu puoi votare anche Tarzan, Alzetta, quello che occupa le case, ma pur sempre di un signore che occupa le case, dunque secondo me un mezzo criminale, un criminale. No, ti spiego perché pur non sempre è di un criminale si tratta. C'è uno che di professione fa l'occupatore di case e lo dice in maniera esplicita, è un personaggio che potrebbe esistere solamente in questo paese, dove occupare le case viene considerata una cosa normale, perché ci sono quelli senza tetto, i poveracci, gli immigrati, eccetera, eccetera. Non occupa le case, vabbè. Non lo dice lui che occupa le case. Può essere un'azione di disobbedienza civile in un paese in cui le case. Non è disobbedienza civile, è una reale dalla possibilità di una casa, di avere una dignità, di avere un tetto. Ma non diciamo cazzate. Ma come non diciamo? Io l'ho provato sulla mia pelle, Cruciani, nel 2004 in un palazzo che era. Che è stato liberato dal degrado in via Cesare De Lollis. Io ho avuto per quattro mesi ho avuto un tetto grazie a Tarzan, quindi il criminale un tetto grazie a Tarzan. Sì, pensa come stai combinato, Francesco. Se hai avuto Stato non l'ha aiutato. Il comune, costruendo delle case regolari. No, no, quando dico il comune intendo che ci sono migliaia di case sfitte. Allora, che vengono gestite dalla politica, attento, parliamo di altro. Vabbè, parliamo di case del comune che non vengono assegnate. Perché no, Eh no, questo è il problema, non è che vengono occupate case occupiamole, dai, occupiamole, Francesco. Beh, ma se lo Stato non lo fa, e sono case pubbliche, che non vanno bene le occupazioni. Occuparle. Ma se lo Stato non lo fa, benissimo, certo. Occuparle. Bravo, bravo, Parenzo, certamente. Benissimo occuparle, Francesco. Non sono case di privati. Vi siete ritrovati insieme, Francesco, non hai visto? Sono case di privati. Francesco, lo Stato l'hai è inadempiente nella distribuzione insieme. Delle case, perché lo Stato non lo fa. Dai, Francesco. Ma scusami, sono stabili comunali, non vengono assegnate. Vi siete ritrovati insieme, due amichetti, insieme niente, chiaro, ma frega chiaro, niente. Chiaro, certe chiaro. Cose ci troviamo assieme. Certo, certo, per carità, viva Tarzan, no. Viva le occupazioni, chi no, se ne frega. No, dicendo, è bello che tutti hanno una casa, non viva Tarzan e viva l'occupazione, siccome è bello che tutti abbiano lavoro, è bello che tutti abbiano, è bello che tutti stiano bene, è bello che non ci siano poveri, è bello che ci siano tutti felici, è bello che non ci siano gli psicologi per curare la depressione. È fantastico. In una senti, la gente come te, la gente la voleva vedere sotto i ponti e ma chi l'ha detto? Come no? Ma chi voleva vedere sotto i ponti? Merda. Ma che liberista di merda? Io sono liberista di merda, no, però, cioè di merda forse chiedo per te. Scusa, chiedo scusa. No, per carità, chiedo scusa. Non puoi anche non chiedere scusa. Chiedo scusa. Chiedo scusa. Attacchi sempre le persone, fai non presto, li fai presto. No, però Francesco, tu stai dicendo che hai avuto una casa grazie a Tarzan. Perché no, sono no, contento non per ho te. Avuto una no. In un determinato periodo della mia vita, per varie situazioni, per vari eventi, ero da poco privato, ero da poco uscito. Vabbè, perché ma, ero stato privato. Okay, perché bisogna fare l'elogio di uno che istiga l'occupazione delle case? Ma non è l'elogio, perché, sai. Perché vi piace uno così? Perché vi piace uno così? Perché lo, il comune non le assegna. Ah, vabbè, ciao Francesco. Chi le deve assegnare? Un esterno, allora? Il comune? È incredibile. Ma guarda. Se il comune è inadempiente e non lo fa, quello le occupa. Sì, oh, come segno di protesta. Salvatore Bergamo, vai. Salvatore. Poi il comune sanerà. Sì. Pronto? Così si svegliano. Sì, ciao, Salvatore. Sì. Ciao. Dimmi. Ciao Giuseppe, ciao David. Io sono il ginecologo che qualche mese fa ha parlato di vaginismo. Ah, il vaginismo, il mitico vaginismo. Sì, il vaginismo. Purtroppo, dopo che ho sentito la telefonata. Ma quante persone sono malate di vaginismo? Beh, guarda, io l'altra volta non lo volevo dire perché mi sembrava una cosa troppo seria da dire, però talvolta il vaginismo può essere dovuto da abusi che le ragazze subiscono da piccole. E mi è capitato. Vabbè, quello certo, assolutamente, sì. Che hanno avuto questi problemi. Vabbè, che cosa vuoi dire stavolta oltre il vaginismo? Niente, sai quanto mi pesa, mi duole il cuore dover dare ragione a Parenzo. Vabbè, no, non è un dramma, capisco che non dormirai questa notte, però... No. Comunque, David, in quanto di cultura e di religione ebraica, ha una certa sensibilità verso certi temi, in particolare verso il tema della purezza della razza. In perché che senso, poter scusami. Decidere di scegliere per proprio figlio i caratteri, se alto, biondo, basso, di colore, gli occhi, il colore della pelle, questa è una deriva eugenetica. Certo. Perché è assurdo, è assurdo poter dire che è normale sì, che fine, una persona alla si fine. Scelga i caratteri bravo. Di un figlio. Però Salvatore scusami, no, Giuseppe, non c'è l'ultima sì. cosa perché no, io ma poi scusami, scusami, è chiaro sì. che se tu fai un figlio in maniera naturale non puoi decidere praticamente nulla, no? È chiaro, uno no. tipo avrai i caratteri aspetta, un po' tuoi, un po' di certo, tua moglie, della tua compagna, di chi ti pare. Se tu accetti, uno può dire può anche non accettarlo, che ci sia un mercato come quello dell'utero in affitto. Ma non può accettarlo. Oddio, se uno lo accetta, se uno lo accetta, è evidente che dopo tu c'è un donatore, cioè c'è una donna no, che porterà in grembo questo figlio che ha certe caratteristiche, cioè è alta, bassa, e loro ti fanno vedere un catalogo. Ma mi sembra una conseguenza naturale dell'accettazione dell'utero in affitto. Dunque, di cosa stupirsi? Che esistono dei cataloghi? Esistono dei cataloghi, certo che esistono dei cataloghi. Tu puoi dire voglio i capelli rossi e loro ti cercheranno se c'è una donatrice con i capelli rossi. Ma non mi sembra una cosa così incredibile. Il supermercato è un mercato, è certo, un supermercato, è un contratto. No, Salvatore, qual è il problema, Salvatore? Non ho capito. Dicendo, lo volevo dire, io ho la fortuna di fare un lavoro che mi permette di assistere al miracolo della vita. Adesso, dire che è naturale che un neonato appena nato non debba avere nessun contatto con la madre è di una violenza che ragazzi, non avete idea. Ma... Io non voglio fare il politico. Che ipocrisia, corretto, però io ti dico veramente: è un'ipocrisia. Cuore, tu perché, hai una figlia, perché, no, non, una figlia, perché allora vietiamo una cosa che è ammessa negli Stati Uniti, che è l'adozione da parte di una ragazza che non vuole avere un figlio e che sceglie ottenendo dei soldi, perché magari è molto giovane, perché no, vuole continuare diverso, a studiare. È diverso, che c'entra? Ma è uguale. No, porta in grembo il figlio, il suo figlio lo dà via, mettono al mondo legge, ragazzi, ma il fatto che ci sia una legge, ma l'avete visto il film Giuno o no? Allora, ma io non dico non che è giusto che ma nessuno giusta. Dice che è un paese criminale, quello là è un paese di schiavisti, è una pratica che esiste in alcuni stati e che accettata, non mi pare una cosa che fa considerare quello stato o quel paese un posto. Ogni stato ha le sue arretratezze, non è detto che ogni stato, anche l'America ha le sue arretratezze. Hai ragione, hai ragione a Parenzo, che devo fare? Allora, caro Davide, io chiamerei, ieri vi abbiamo presentato un signore che è stato, ripeto, ospite, trattato con i guanti bianchi, bisogna dirlo, trattato con i guanti bianchi a Radio Padania Molte Libera. Che persona schifosa. È un tizio che si fa chiamare Lennox Ferrone, di mestiere credo che faccia, non lo so bene, poi magari glielo chiediamo. Fa. Vabbè, di mestiere farà un mestiere al di là dello schifo, no? È il mestiere, una persona fa schifosa, l'atleta, fa il nazista, l'atleta. Uno che nazista. Ha detto delle cose sul nazismo, sul fascismo, e mi sono un po' informato, è classe 1977, dunque non è molto... è quasi tuo coetaneo, diciamo, quasi tuo coetaneo. No, io sono del 76, quindi sì, 77, certo. Quasi tuo coetaneo, infatti, ho detto. E questo signore ha detto: viva il nazismo, viva il questo fascismo. Questo demente, bisogna dirlo, questo demente. Io una telefonatina gliela farei, eh. Pronto? Allora, buonasera. Buonasera. Ferrone. Sì. Sono Cruciani, ciao. Oh, Cruciani, buonasera. Come stai, Ferrone? Bene, bene. Ma di mestiere tu che fai? Faccio lo sportivo. Cioè che fai, concretamente, che fai? Sì, faccio l'atleta, sì, faccio sport estremo, faccio trekking estremo. Sei anche estremista in generale, diciamo, no? Ah, ma certo, ma quello... Quello sicuro. È una cosa naturale. Tu sei più fascista o più nazista? Non ho capito bene. Sono tutti e due. Tutti e due, cioè nazifascista si potrebbe dire. Esatto, la mia inclinazione è quella, lo è sempre stata e ci sono molti italiani che sono inclinati come me. La feccia, insomma, la feccia proprio. Perché la feccia? La feccia, la merda più totale. Vabbè, la merda. Ma no, la merda, uno che si dice nazista è una merda per me. No, ma una no, merda. No. Andrebbe ma denunziato, peraltro, anche perché è un reato definirsi nazisti. Vabbè. Ognuno ognuno c'ha il suo modo di vedere, c'ha la sua mentalità. Non c'è, in questo caso non è ognuno il suo modo di vedere. È un reato proclamarsi nazista. Ma tu hai tatuato che cosa? Una svastica, ho letto. Certo. Ma dove? Certo. Ma c'è, non è certo. Non è che... Però uno così capisci che uno che ma è così sfrontato. Ma perché da restare? Ma smettila. È un reato. La svastica dove ce l'hai? Nel sedere dove va messa. Ah, dietro la schiena. Appunto, nel sedere, vedi, dove va messa. Mi dove fai parlare un attimo con Lennox? Sì. Fammi no, parlare ma mi fa un schifo, attimo. Mi fa schifo, chi se ne frega. Mi fa schifo, uno che si dice nazista mi fa schifo. Posso dire che mi fa schifo? D'accordo, va bene. Ma si può ancora dire che a te non fa schifo un nazista? Perché sei nazista, Lennox? A te un nazista non fa schifo. Perché uno lo diventa, no? Tipo, che cosa ti piace di Hitler, per esempio? Cioè un grand'uomo. Per quello che ha fatto, per quello che avrebbe potuto fare ancora di più, insomma, poteva far meglio. Ma l'olocausto è esistito secondo te o no? Ma su quello c'ho qualche dubbio, insomma. Hai qualche cioè non è esistito in questa pratica, no, di quello c'è da rivedere più di qualcosa, perché cioè? Ho visto, insomma, c'è da rivedere un po', ci sono dei video, insomma, dei filmati che bisogna guardarli, non bisogna in galera li guardi. Te li guardi tutti in galera, guarda, una bella denuncia gli facciamo questo. Ma li ha ammazzati o no secondo te? Li avrà ammazzati sicuramente toglierei sicuramente ci sono stati dei morti, no? Quindi, 6 milioni direi. Come? Quanto? 6 milioni, imbecille, 6 no, milioni. No, mi sa no. Che devi rivedere la storia, vai piano. Questa con è le la parole, sua ultima intervista che fa, comunque, vedrà. Sente, può far star zitto quel pappagallo? Sì, adesso lo faccio stare zitto. Che è l'ultima cosa che fai, glielo giuro, Lennox, guarda. Spiegami un attimo, gli omosessuali come li consideri? Per me sono un abominio, non è simbolo di civiltà, punto. Ma che cosa? Cioè, il fatto di... Cioè, la natura... No, non bisogna andare contro natura, non esiste. E dunque? Quindi andare contro natura non esiste. Quindi è un abominio. Per me è un abominio. Cioè, ma un abominio che cosa? Fatto... Essere gay, dici? Beh, certo. Essere... Dunque... accoppiarsi tra uomini o tra... Che cos'è? O tra donne. Ma dove siamo? Ma dove siamo? Perché non ti piace vedere due donne insieme? Non sentiremo più parlare di questa persona. Non ti piace vedere due donne insieme. A me non mi piace. E gli omosessuali che fine dovrebbero fare, secondo te? Ognuno deve vivere con la sua... con il suo handicap. L'omosessualità per me è un handicap. Dovrebbe stare... Dovrebbero stare isolati, diciamo, tra di loro. Si dovrebbero frequentare tra di loro. Frequentare tra di loro dove? In che paese? In un paese a parte? Dovrebbe esserci un gay land? Che ne so, un paese solo. Dovrebbero stare tra di loro, dovrebbero vivere tra di loro, non si dovrebbero mischiare con la società. Ah, non dovrebbero mischiarsi con la società. Dovrebbero vivere praticamente in isolamento. Insomma, non dovrebbero avanzare dei diritti che non hanno. Dei diritti che non hanno. Senti, io non ho capito una cosa, ma è meglio, è stato meglio Hitler o Mussolini? Questo sono un po' incerto su questo. Io sono di tendenza mussoliniano. Sei di tendenza mussolina. E che ha fatto di buono, per esempio, Mussolini? Beh, ha fatto le strade, poi? Ha dato le pensioni. Poi? Ha tenuto un paese in riga. Questo è un po'. Per cui ci vorrebbe un altro Mussolini in Italia. Oh, oggi sì. Dovrebbe tornare il fascismo in Italia, questa è la sostanza. Per me sì. Quali cimeli hai a casa tua? Oggetti, avevo dei poster, delle foto. Di Mussolini, di Hitler. Certo. A Parenzo è un po' aggressivo oggi. Come mai, Parenzo? Perché mi fa schifo uno che si proclama nazista. Per me deve essere denunciato. Ma questo stai pur sicuro che lo farò. Ma è, lo faranno anche altri. Perché è vomitevole. Quello che ha detto, sì. È vomitevole. Vomitevole. E gli stranieri con gli extracomunitari che bisogna fare con i profughi? Che cosa bisogna fare? Bisogna rimandarli a casa. Tutti via a casa? Tutti. Senza esclusione, tutti. Metta tutti gli stranieri in generale. Soldi, va? L'Italia è degli italiani, non è degli stranieri. L'Italia e degli italiani. Le consiglio di chiedere l'infermità mentale dopo questa intervista, perché altrimenti le costerà cara, caro imbecille. Sì. Sì, sì, ti voglio vedere, nazistello, quanto sei felice quando ti arriva la querela, coniglio che non sei altro. Ma tu vuoi fare che cazzo vuoi? Ti voglio vedere, brutto imbecille nazistello, ti voglio vedere, nipotino di Goebbels. Ma come sei bravo tu? Ma vieni a trovarmi a Roma, va, che ti facciamo una sorpresina. Vieni, vieni. Vieni, vieni. Sì, bravo. Bravo, vedrai che fine fai tu. Vedrai. La faccio fare io la fine. Come hai detto? Come hai detto? Come hai detto? Scusa. Come hai detto ancora? Hai firmato la tua condanna, infame nazistello, nipotino di Hitler del cazzo. Vedrai. No, sono il figlio, non il nipote. Quanto mi diverto. Ti piacerebbe essere figlio di Hitler? Pagare tanti di quei soldi. Ti piacerebbe essere figlio di Hitler? Oh, se lo ero. Se lo ero sarei stato fortunato. Sarei stato suicidato. Ma Hitler è stato davvero il più grande statista, secondo te? Il più grande? Il più grande statista esistente? Il più grande statista, il più grande politico. Più grande politico, uomo, vuol dire su Google, metti statista, così trovi il significato della parola. Mussolini è stato migliore. Migliore, poi dopo Hitler viene. Per me il Mussolini è stato il migliore, poi ha fatto le cose come le doveva fare, poi... Ma c'è stata anche la persecuzione degli ebrei, per esempio, no? Le leggi razziali, così, un inciso. Vabbè, le leggi razziali, certo. Erano giuste. Io ho detto che con gli ebrei si poteva fare meglio. Bisognava mandarli via e basta. Mandarli via e basta. Malato di mente. Vabbè, amico mio. Addio. Addio. Arrivederci. Addio, È l'ultima, ciao, le ultime parole ciao. Pronunziate. Hai perso la testa, David, hai perso la testa. Capisco che quando uno pronuncia le parole nazismo, olocausto, eccetera, uno possa perdere c'è la testa. Motivo, però, non capisco perché tu non accetti mai il paragone che viene fatto tra i nazisti e i comunisti. Questo francamente non lo capisco. No, i comunisti italiani che pure furono complici. Ma non c'entra niente, ma è una stupidaggine. C'entra. Comunque mi segnalano. Se non ti parli di comunisti, parli di tante cose, allora, no? Di tante espressioni diverse in Europa, in Italia, in Russia. Allora, mi segnalano che il film che ho citato prima, cioè Giuno, lascia i figli in adozione e rifiuta i soldi, forse nella cinematografia, cioè in quel film. Sì, credo che quel film. Tipo di adozione, però, qualche soldo, un minimo di soldi, li consegna alla donna che porta in grembo per 9 mesi il figlio, avuto dal suo compagno, dal suo fidanzato, ex fidanzato, decide di non prolungare la gravidanza perché sono troppo giovani, perché non hanno i soldi, e di dare questo figlio dopo pochi istanti, dopo un mese credo, a genitori che lo chiedono. Ci sono delle agenzie che se ne occupano, che prendono i soldi. Anche questa ragazza, credo, questo nucleo, piccolo nucleo familiare, prenda i quattrini. Pochi, ma li prendono. Parlo con Radio Merda. La Zanzara. Se essere froscia contro natura, mentre passare tutta la vita con la stessa donna, andarci insieme all'IKEA, a fare la spesa, dormirci sempre insieme, beh, quasi quasi meglio prendere il culo di essere contro natura. Questo è il top assoluto, devo dire che è il messaggio più bello che è arrivato nelle ultime 24 ore, e li ho compulsati tutti. Questo qua è meraviglioso, cioè... l'essere omosessuali, poi lui lo, l'ascoltatore lo ha caricato, come dire, no, di una rappresentazione, sì, plastica, è meglio che essere, che ha detto di andare con una propria compagna all'IKEA, eccetera eccetera. Fra qualche minuto ti do in esclusiva il nuovo palinsesto, fra qualche minuto il nuovo palinsesto di Radio Maria, appena uscito. Pensavo di Radio 24. No, appena palinsesto, sfornato da Radio Maria, il nuovo, fra pochi minuti abbiamo in mano il nuovo palinsesto che scatterà tra qualche mese, lo abbiamo in esclusiva, il nuovo palinsesto di Radio Maria. Allora, tra le notizie di oggi, caro Parenzo, non ci sono le borse, non c'è, non so, guarda le prime notizie che ci sono oggi, non so, non, tra le notizie della Zanzara c'è l'esclusione di Efe Ball dall'Isola dei Famosi. Ora, a me dell'Isola dei Famosi, di Sanremo, non me ne fotte assolutamente nulla, mi interessa solo della loro rilevanza un po' mediatica ogni tanto di qualche personaggio, per carità. Cioè, mi picco di vedere, credo, in tutto una ventina di minuti di Sanremo, poi vedo dei piccoli pezzi, vedo dei piccoli pezzi scarsi, oppure proprio se sono davanti alla televisione verso mezzanotte e mezza, l'una, la conclusione della serata, no? Ma che cosa fai tutta la notte, scusa, tutta la sera? Non so, vado a cena fuori, vado guardo il calcio, guardo delle serie, vai, non lo so. Vai con quegli uomini che chiamano, che... No, quei personaggetti, no, quello... che telefonano. No, no, quello no. Efe Ball, cacciata per colpa della Zanzara. Allora, no, come sì, ti assicuro. Cioè, era stata ingaggiata dall'Isola dei Famosi, doveva cambiare vita, e a me dispiace anche. Concede a questa trasmissione, a sì, questo posto poco raccomandabile, sì, diciamo la verità. Sì, sì. Un'intervista. E la cacciano. E la cacciano. Cioè, non la mettono più dentro il cast, capito? Cioè, la escludono dal cast. Ma perché? Perché aveva pronunciato queste frasi, tieni. Efe, sì, andrai all'Isola dei Famosi o no? 90% sì, 99% sì. Ah, sì, andrai all'Isola dei Famosi. E questo era l'annuncio, no? Tutta felice, cambio vita, anche una puttana può cambiare, ma dice prostituta, io dico puttana, può, ma non in senso dispregiativo, e può cambiare vita, eccetera, eccetera. E poi dice, ma insomma, noi chiediamo, io chiedo, almeno io chiedo, tu eri lì sempre un po' imbarazzato con la signora Efe Ball, tu, no, hai paura, no, dei trans? Perché siccome tu hai talmente paura di che ti piacciano, che ti possano piacere, no, questo, guarda, che ti intimidisce anche no, fare delle la domande. Paura, cioè, hai paura che poi ti possa piacere la transessualità, no, non capito? Mi fa, no, questo no, io ho le idee molto chiare. Ma no, mi ma ti può piacere, le donne. Potrebbe piacerti. Cioè, no, ma ti assicuro, ti sarai il primo a saperlo nel caso cambiassi. La cosa che non mi fa paura, mi fa un po', come dire, un po', sì, un po' specie, ecco, sì, sì, è questa idea che invece ad altri piace moltissimo, sì, del seno e dell'altro strumento, sì, cioè questi due elementi messi insieme, sì, di cui conosciamo ormai tutto, non è che dici la novità, no, chi sono, no, i trans, no, no, sappiamo, no, no, tutti, sappiamo, no, tutto da tanti anni, e allora non, sì, è che mi imbarazza, è che insomma, sapere che una persona ha insieme due elementi, seno, che in genere seno, insieme seno finto, però, non ci possano stare, è un po' come bere il latte col limone, per me, no? Tu berresti ma mai il latte, no, col limone? No, adesso stai esagerando, no, il latte col limone, e qual è il latte e qual è il limone? Cioè, il seno sarebbe il latte, no, e il limone, ognuno, sarebbe l'uccello, ognuno vede, sì, appunto, cioè il latte col limone non lo bevi perché a me fa lo stesso effetto del latte col limone, però rispetto le persone a cui piace il latte col limone, ma non, che è la stessa, dire, cosa, non puoi latte fare il paragone, limone, dai, latte col limone. Tra l'altro è anche abbastanza ambigua la metafora che hai fatto, insomma, non vorrei dirti, no, perché venuta il latte, così, può, giuro, il latte può uscire, diciamo, così, il latte può uscire da un certo organo, ecco, sessuale, bravo, guarda, il limone, il succo, bravo, del limone può uscire quando, ecco, uno, bravo, non ha, no, può, bravo, esserci, bravo, anche non ci avevo pensato, perché mi è venuta così, ti assicuro, non l'era io invece preparata, ci ho pensato. A te piace il latte con limone, ma no, non, no, non è una, no, colpa, ma non ho detto, non ho detto, non, questo, ho detto che a te fa paura. A te fa paura, però non è la parola, sì, ti impressiona esatta, il fatto che magari mi può piacere, dunque mi pongo delle domande su me stesso, no? Ti assicuro, ma guarda che non è così. Non mi piace il latte con limone, così, vabbè, come ha non paragonato mi un transessuale al latte e al limone, vabbè. No, un latte con il limone. Latte con il limone, è quasi un insulto questa cosa qua. No, cioè una schifezza, perché hai detto una schifezza. No, ma il transessuale è una schifezza, hai detto. Ci sono dei bibitoni a cui ci sono persone a cui piacciono i bibitoni. Comunque, ma non è il passaggio mio... fondamentale per cui Efe Ball è stata esclusa dall'Isola dei Famosi è questo. Per prima volta ci sarà una persona che non piangerà all'Isola dei Famosi, sì. Cercherà in ogni modo di non mangiare, ma di fottere, di trombare, di fare sesso, perché io adoro fare sesso. Beh, non so se sia consentito. Per sia la prima volta no, in Isola dei Famosi ne vedrete una bellissima trans. Beh, posso capire che i signori di Mediaset, il bacio della morte, i signori di Mediaset si siano un po' indispettiti. Hanno detto, ma sono ritrovati lì nel comitato di gestione. Avete sentito ieri cosa ha detto? Allora abbiamo chiuso il casting. Voglio fottere. Tutto... C'è una signorina che abbiamo ingaggiato che ha detto, ieri. Io vado all'Isola dei Famosi e voglio fottere. Ecco, forse ha detto, quali erano i nomi dei candidati? Ah, Febbraio, mi pare che ieri ha detto qualcosa a Radio 24. Fatemi risentire un attimo. Hanno messo il nastro su a Pier Silvio. Il nastro gli hanno portato. Pier Silvio, figurati. Il nastro. E Pier Silvio, Silvio, ma forse ha avuto un attimo, non è il caso. Ha avuto una scossa. Non è il caso, forse. Sì. E cercherei di fare tutto ciò tranne che mangiare insetti, per carità, questo no. Quello no, insetti non ne mangiamo, però insetti sesso no, a volontà. Banane, wurstel, tutto ciò mangio. Sesso a volontà all'Isola dei Famosi. I preservativi ce l'abbiamo, i 100 preservativi. Dai. Porterò con me anche qualche preservativo, cioè qualche centinaio di preservativi. Un camion. Non si sa mai. Un camion mai, devo portarle. Non si sa mai. In un pacchetto sono 144 dei Pamitex. Io comporterò un pacchetto così. Io dico, non si sa mai. Ti hanno messo nel contrattino che non devi scoprire? No, ancora, io domani magari dovrei vedere questo contratto, ma non credo che c'è un... Che ne un, so, non devi mostrare l'uccello? No, no. Non, ma questo... allora, non devo mostrare l'uccello, magari qualche volta si vede perché mi fanno arrampicare da un palo all'altro e esce, mi dispiace. Per forza. Basta che non ci sia uno che dice non devi assolutamente fare sesso, non credo. Non credo. Perché non credo. Probabilmente non lo faresti. Sarà un bel ragazzo carino. Lo farai, lo farai, lo farai, lo farai. Vabbè. Un pompino. Vabbè, per questa performance devo dire, beh, è stato uno dei momenti più alti di questa stagione della Zanzara, questa intervista di Feballa. Per questa intervista, caro Parenzo, c'è stata l'esclusione. L'esclusione. Vabbè, le daremo magari. No? Però mi chiederemo, dispiace, devo dire la verità. Chiederemo a Napoletano se può scrivere nell'inserto della domenica, magari, no? Come risarcimento fai del presto, danno. Fai presto, fai presto. Articolo di Feballa, dov'è l'articolo di Feballa? Disgraziata, Feballa, dov'è l'articolo? Ma il commento a un libro, non so, no? Non lo so, può essere un'idea. Chi ha avuto questa idea? Può essere un'idea la domenica, dell'inserto culturale della domenica che gli intellettuali leggono davanti al caminetto. Lo apro e dico, oh, vediamo caminetto, un attimo. Sì, davanti al caminetto, già dico, Feballa, chi è questa scrittrice? Invece turca. Turca, sì. Paolo da Milano, che vai. Disastro, Paolo, che vai. Disastro. Io volevo solo dire degradato. Che è un'ipocrita. Parezzo un'ipocrita, bene, spieghiamo questa cosa. L'occupazione delle case, ok, perché così lo Stato si sveglia e il Comune si sveglia a darle, quando invece le persone si uniscono tutte assieme oppure diciamo si difendono dalla mancanza dello Stato, per esempio con le pistole per difendere le proprie case, invece sono tutti fascistelli. Cosa c'entra? Ma Paolo, io non ho capito bene. Allora, tu di cosa vuoi parlare? Faccio un paragone. Sì. Parenzo ha detto: è giusto occupare le case. Sì. Ok. Perché no, è così che è giusto. Lo Stato si sveglia, il comune, è capibile. Il comune si sveglia e comincia a dare le case. Esatto. Nello stesso modo, deve difendere le persone che, visto che c'è una mancanza di, diciamo, di sicurezza da parte dello Stato, sì, oppure di lavoro, che ne so, prendono delle pistole e difendono le proprie, esatto, le proprie case, visto che non ci sono. Ma sì, ma in nome dello Stato non mi dà questo, allora occupo come va. È una follia, dai, su, è una cosa che Parenzo, se ci pensa bene, non può condividere una cosa però di questo fa tipo. Ma tanto di sinistra dirlo, sì, sì, no, non invece, a fronte di un'amministrazione con... più d'una, ma chi che lo non dice, ha... ma chi lo sostiene questa cosa qua? Ma è tutto da giudicare, tu invece lo dai per certo. No, io so che, ma no, certo, questo è un fatto, cioè, ci sono un sacco di appartamenti, vabbè, sfitti ma dei chi comuni. Se ne frega, ma perché che li devi non le occupare? Assegnano. Ma perché li devi occupare? Ma io non li occupo, ma capisco, ma no, quelli che non hai in assenza de... ma no, ma io perché non lo farei, ma capisco quelli che in assenza, siccome sono si dice sempre che la politica non decide, bene, la politica infatti non decide, ha degli stabili, i comuni, Milano, Roma, ma Napoli, stabili, ma che ma non è un hanno motivo delle giusto... case sfitte, sì, che non riescono ad assegnare, non dovrebbe esistere, dovrebbero vendere secondo me a prezzi di mercato, bene, ma è un altro questo discorso. È un altro discorso, no, questo, ma in ogni caso anche. L'occupazione non beh, è, a parte che l'edilizia popolare è sempre esistita, l'edilizia tra l'altro popolare, io metto sì, mano, mi fai prendere la pistola, ti giuro, qualche volta la porto l'edilizia popolare, metto mano alla pistola, esiste, l'edilizia popolare. E guarda che la faceva già per i suoi operai il grande Olivetti, che costruiva Riccardo D'Ancona, delle, ma quelle sono una cosa diversa, con i soldi suoi. Riccardo D'Ancona, sì. E beh, uno con i soldi aveva suoi il senso di, del... Dai Riccardo, mi ha scritto F Balla, ti ho sentito, grazie cara F, che cosa vuoi che ti dica? Mi ha mandato un messaggio adesso, mi dispiace ma amica mia, siamo qui, se ti serve una mano, siamo... Scrivi il Sole 24 Ore, direttore, sì, chioccio. Vuoi una rubrica, ma guarda che sarebbe interessante, molto, c'è una molto. Rubrica sul Sole 24 Ore, sì. Nelle pagine culturali del Sole 24 Ore, cioè... la domenica, ma tu lo dici per scherzo, invece no. Ci penso bene, chi è che può descrivere meglio la società di oggi, alcuni aspetti anche dire, nascosti certo. della società di oggi? Sì. Più che una signora che conosce un sacco di gente, certo fa la prostituta, ma che differenza c'è tra la prostituta e un potrebbe un sociologo, chiamare la rubrica fuori di ball. No, dimmi la verità, che differenza c'è oggi tra una prostituta e un sociologo? Cioè conosce adesso... meglio la società un sociologo, scusatemi, o una prostituta? Cioè, guarda che certi sociologi fanno delle inchieste o fanno delle loro analisi seduti su un tavolino analizzando delle... questa fa dell'analisi ogni giorno, certo, analisi anche di un certo tipo, però analisi conosce le persone, ci parla, sa chi sono, persone, eccetera, eccetera. Conosce alcuni tipi il di sociologo, persone, diciamo. Il miglior sociologo oggi in Italia, uno dei migliori, è sicuramente la signora F. Ball. Riccardo D'Ancona. Pronto. Dimmi. Povero Bauman. Riccardo, parla però. Calmato. Volevo dirti che non capisci un cazzo. Ma non è una cosa nuova che mi dicono, per cui non sono abbastanza ferrato su... No, però cerca di parlare... Riccardo... Stai prendendo troppa. Riccardo... Devi far incazzare ancora un po' e tenermi in linea, così ci divertiamo. Riccardo, scusami un attimo, però avvicina... No, togliti il viva voce, se no non ti sento bene, per cui non ti puoi incazzare bene. E qualcosa hai, ti sento lontano... Non lo so, hai il microfono, qualcosa, stai guidando, che stai facendo? Ho tutto spento, è mezz'ora che aspetto. Togli viva voce, togli il microfono, non sai, metti bene la bocca accanto al microfono del telefono, accanto, attaccata, schiaccia, fatti male. Pronto? Niente, richiamate questo, dai. Alberto da Milano, sì, si è ferito, non so che ha fatto. Alberto, vai. Pronto? Dimmi, Alberto. Pronto? Sì. Ciao Cruciani, ciao Carletto. Ciao. Senti, prima di tutto ti confesso un reato gravissimo che ho commesso quasi in diretta, da far sembrare un'educanda quel minchione di nazista al quale avete appena dato la parola. Sono appena sceso dalla macchina e ho pisciato contro un cespuglio, lo ammetto, l'ho fatto. Attenzione, dammi esattamente le coordinate così chiamiamo subito i carabinieri per una denuncia. Anche se no, mentre pisciavo è passata una macchina dei carabinieri, mi ha guardato storto ma sono andati via dritti. Per fortuna non erano come quelli del professore là che poi è stato licenziato per colpa che gli hanno fatto male. Una denuncia per atti osceni in luogo pubblico o altre cose. Vabbè, Alberto, vergognoso, ma già detto. No, l'oggetto è questo, utero in affitto. Parto dall'intervista che ho sentito. Ma poi ragazzi, riguarda pochi casi, sto utero in affitto, non è che c'è tutta sta gente che ha sta voglia di andare in Ucraina e in Russia a pagare 30.000 euro per mettere incinta una. E dunque chi se ne frega? Chi può andarci? Ma sì. Perché ho sentito quella i ricchi, i benestanti, diciamo. Bravo. Bene, bravo. Allora, e qual è il problema? Bravo. E allora comunichiamo a tutti i senatori e deputati. Ma non c'è in discussione questa roba adesso, anche questa è una mistificazione. Non c'è nulla di tutto ciò, ma non c'è nulla che riguarda l'utero in affitto, ma lo vogliamo dire chiaro? Io sono anche contro questa legge italiana, nella cittadinanza. No, certo, non c'è. In Italia, ma all'estero possono andarlo. L'abbiamo sentito prima, l'abbiamo praticamente comprato un bambino in diretta noi, prima, all'inizio della trasmissione. L'ho sentito. Con tanto di capelli, con tanto di pelle, eccetera. Infatti, se mi gira il culo lo metto pure alla fine della trasmissione, dai, dimmi. Altra osservazione in relazione alle donne. Ma io non ho capito se tu sei a favore o a torto, sia a favore o contrario. No, mi astengo dal giudizio. Degli elementi che a mio avviso sono oggettivi, ma dei quali non sento parlare. E quali sarebbero? Non ho ancora sentito. La donna che dall'utero in affitto, se percepisce quei 100.000 euro che il deputato del PD o senatore del PD diceva di aver pagato per un utero in affitto, mi sento di andare in parallelo con una donna che dà per soldi il proprio corpo per motivi diversi. Non è la stessa cosa, ma più o meno per me è uguale. È chiaro che non è la stessa cosa vendere il proprio corpo per mettere al mondo un figlio o venderlo per sesso, no? Cioè, sono due cose diverse. Le cose sono diverse, ovvio, quindi anche concettualmente diverse, perché non è che sono semplicemente diverse. Vabbè, allora già tutto noto. Dunque, Altra cosa che volevi dire, Alberto? Dunque, avevo fatto due conti che se fosse, se desse invece di dare l'utero in affitto, facesse, desse il suo corpo in, per altri motivi, guadagnerebbe 370 euro al giorno. E mi è venuta in mente un'altra cosa, che ho delle... Beh, guadagnerebbero di più, forse. Spaccano. Guadagnerebbero di più, forse. No, 9 mesi, no, no, no, la prostituzione rende sicuramente di più dell'utero in affitto. Guarda, l'utero in affitto lo fai una volta per 9 mesi e poi sei incinta. Glielo auguro. Glielo ma auguro sicuro al 100%. Sicuramente fare la prostituta è più redditizio che fare l'utero in affitto. Su questo non c'è minimo dubbio. Glielo auguro fortemente. L'altra osservazione che facevo è che ho delle dipendenti che si spaccano la schiena per 80-100 euro al giorno netto, e quando queste ne guadagnano 370 Ho capito, ragazzi, ma il mondo non è mica tutto uguale. Cioè, ci sono certi mestieri e certe cose che sono più, tra virgolette, ricercati, e ci sono certe cose come l'utero in affitto che certamente bisogna anche avere o estremo bisogno e anche molta forza di volontà per farlo, perché non è che solamente il bisogno, cioè devi farti mettere incinta 9 mesi, eccetera, devi avere veramente una volontà di ferro. Che mondo sarebbe senza la zanzara? La zanzara. Giuseppe, ti sembra pazzo chi venera Padre Pio e poi tu hai il culto dei piedi? È tutto finito. Beh, però vorrei far notare a questo ascoltatore che non è proprio la stessa cosa. Adesso magari, Prezzo, tu darai ragione a questo qua, ma non è la stessa cosa. Cioè, il culto dei piedi è un'altra cosa rispetto alla credenza. Io credo che ogni tanto in questi vocal message si inserisce un po' di lucidità. Ogni tanto. Ah, in questo caso è un messaggio lucido. Raramente si inserisce un po' di lucidità in questi vocal message. No, dai. Sì, sì. Allora, eravamo con Riccardo, con chi eravamo? Sì, con Riccardo, c'è ancora o no? È andato via, Riccardo? Ci sono. Allora, che cosa mi volevi dire? Perché eri incazzato? Perché non capisci un cazzo, Cruciani, perché stai esagerando, perché devi abbassare la dose. Perché la dose di che cosa, scusa? La dose delle medicine, perché qualche... Ma non prendo nessuna medicina io, guarda, prendo allora due vitamine la mattina, un po' di magnesio e basta. Bisogna che abbassi qualcosa. Ma non prendo nulla, è inutile che dicono cazzate. Il tuo lavoro lo sai fare benissimo, quando intervisti gli imbecilli che vogliono fare i nazisti, quelle con l'altro, gli dici fuori tutto, la prostituta che gli dici fuori tutto. Ma quando tu dichiari che l'utero in affitto è una cosa buona, e lo... Io non ho detto che è una cosa buona, ho detto che è in... Beh, sei a favore, sei d'accordo, quindi... Tu non capisci l'umiliazione delle persone. Ma lascia, non giudicare l'umiliazione. No, Riccardo, è un'ora che sono al telefono che ti aspetto. Incazzati, vai, tranquillo. Tu dalla parte tua, lo sai cosa c'hai? Sai che c'hai la regia, la segretaria, quelle cose. La segretaria, stai parlando, che cazzo vuol dire? Stai sbagliando, perché sei un grande professionista, sei una grande persona, ma non puoi prendere posizioni di dire io sono per... Senti, amico mio, ma da dove stai parlando? Si può sapere da dove... Da dove stai parlando? Da dove stai parlando? Dalla caverna? Dalla caverna? Da dove parli? No, dalla macchina. Dalla ho capito, ma togliti questo cazzo di viva voce! Non ce l'ho, sono fermo in un casello che sto pagando il posto. Non è possibile che non ce l'hai, dai, su, c'hai un microfono, non c'hai il telefono attaccato alla bocca, perché altrimenti si sentirebbe meglio, dai. Io non ti dico le cazzate. Senti, Riccardo, amico mio, io sono a favore, perché è inevitabile. Perché hai dei momenti di lucidità, ce li hai, e allora lì sei molto bravo. E sei... Ma io faccio il conduttore di un programma, amico mio, non devo essere lucido necessariamente. L'altro giorno eri ospite di una trasmissione del calcio, hai fatto una cazzata lì, dopo 5 minuti sei tornato indietro, no? Quando non me lo ricordo. D'accordo che i giocatori non dovevano esultare, ma io c'ero capitato per caso, non è che... Ma non ho affatto detto che i giocatori non devono esultare, ma sei impazzito? L'hai detto. Ma quando mai? Sei tornato indietro 2 minuti dopo, ma i colleghi... Vabbè, Riccardo, dai, allora? No, sei troppo pieno di te, ma sei pericoloso, hai capito? Devi mantenere... Senti, dire, Riccardo, io non so da dove chiami. Non puoi aiutare a devastare questo mondo di più di quello che chi ti ha preceduto ha devastato. Tu stai esagerando. Ma, tu hai una ma dicendo cosa? Dicendo che l'utero in affitto è una cosa giusta. Ma io dico che è inevitabile. Ma io dico. Sai di che cazzo parlo? Ma che non so di che parlo. Ma lo sai te. Invece lo sai te. Non mi ricordo il nome. Invece lo sai tu. Parenzo si chiama. Parenzo. Eccoci. Ha fatto l'esempio del latte col limone. Il latte col limone, ma forse lui non lo sa, è una cosa ottima perché la crema pasticcera si fa col latte col limone. Ti segui? Sì, sì, ti seguo. Come no? Allora, avete in mano, ragazzi, un potere della Madonna. Dovete stare attenti a usare le parole. Non dire che l'utero in affitto va bene. Intervista la prostituta e fagli dire tutto quello che vuole. Intervista quell'imbecille e tiragli fuori tutto. Intervista. Senti, Riccardo, io adesso non è che mi devi dire tu quello che fare e quello no, Devi avere il coraggio di fermarti. Io dico quello che penso, ho detto semplicemente no, che non è. Non puoi dire quello devi che stare pensi, tranquillo. Allora, Riccardo, non mi fare incazzare stavolta. Perché tu, dalla parte tua, sai cosa c'hai? Riccardo, hai la levetta che stacca. No, ma non sto staccando nulla. Di questo non me ne frega un cazzo, di quell'altro non me ne frega un cazzo. Tu non puoi essere giornalista. Riccardo, senti, io faccio quello che mi pare. Non sei tu a dirmi quello che devo essere. L'unica cosa sicura è questa: che io non ho detto, fermo là, non ho detto che l'utero in affitto è una cosa meravigliosa, è una cosa fantastica. Ho detto che è inevitabile, perché altrimenti diventa, come dire, lo si fa lo stesso senza una regolamentazione. E allora, siccome io poi lo considero anche un commercio, non dico uguale ad un altro commercio, ma lo considero comunque un contratto che viene fatto secondo alcune norme che sono sotto gli occhi di tutti. Sarà agghiacciante aver questo. Reso un contratto la possibilità di scegliersi il bambino ma sì, e il colore scegliersi del... è una cosa non state è che tutto può essere normato state e accettato dai, eh? State esagerando. Ciao Riccardo, ciao dove andiamo a Giovanni, provincia di Foggia. Vai Giovanni. Ciao, dimmi. Sono qui in un bellissimo posto, il lago di Occhito. Vorrei lago invitare... di? Lago di? Occhito. Si sente pure che stai vicino al lago, che sì, trema tutto, vai. Sarà il vento. È il secondo lago più grande d'Europa. Bene, dopo aver saputo questa notizia del lago di Occhito, secondo più lungo, più grande d'Europa, non credo, questo non credo. Sì, no, è la seconda diga. La seconda diga. Grande, ma sei in un fon. La più grande d'Europa, la prima no, sarà sta il in vento. Russia. La prima sta in Russia, dove i russi hanno fatto 90 milioni di morti. Sì. E in Italia ancora non c'è una legge che condanna chi si dichiara. Io che sono razzista. Tu che sei? Fascista. Tu sei fascista pure tu? Sì. Vediamo se il vento lo porta nel lago. Lui è fascista. Anche questo però qui. Fermati un attimo, amico mio, sennò il vento ti potrebbe portare via. Cosa che farebbe, ma non sarebbe una cosa farebbe negativa. Farebbe piacere a di per sé. Sì, beh, anche a tanti allora, altri. Giovanni, tu ti dichiari fascista pure tu, giusto? Sono fascista, io sono nato fascista. Sei nato fascista e sei fascista. Dunque, sì, che cosa ci vuoi comunicare oltre a... Cioè qua... No, voglio comunicare a quella testa di Sarracino che sta lì vicino a te. Sarracino che vuol dire? Di arabo. Un Sarracino. Fermati, perché si sente il vento, amico no, mio. No, ma anche no, non si preoccupi. Vada verso il lago. Ma perché? Chiuda gli occhi qua, e vada verso il lago parlando al telefono. Chiuda gli occhi, mi dia retta. Cammini verso il lago, tranquillo, no, chiudendo gli occhi. Venire, intanto parli. Qua, non c'è problema, io prego. Qua vicino al lago. Vieni vada. Tu. Vada verso il lago chiudendo gli occhi, forza. Faccio un regalo a un po' di persone. Che gli fai vedere? Faccio vedere una cosa bellissima. I tuoi amici... hanno fatto 90 milioni di morti. Amico, ti devi fermare. I tuoi amici russi hanno fatto 90 milioni di morti. Però non parliamo della storia. Dai, su Giovanni, che ci frega adesso? Qual è il punto? Hai chiamato dicendo che, di essere fascista. E vabbè, d'accordo, ce ne faremo una ragione. Poi? Io, siccome che oggi ho ammazzato 4 maiali. Hai ammazzato 4 maiali? Vabbè. Sì, cosa ammazzano i maiali? I maiali, non le persone maiali. Anche se lo vorrei fare uno. Qualcuno vorresti ammazzare, dici, no? Qualche persona maiale. Guardi, c'è un'ottima domanda che mi fa in questo momento via SMS il signor Davide Romano, che dice: ma perché tutti i fascisti chiamano la Zanzara? Perché che si è sentono, una domanda legittima di Davide si Romano. Perché si sentono questa. Liberi di esprimere le proprie idee, ecco, come è giusto che sia, ma non dice, chiamano solo i fascisti. Perché tutti i fascisti, ha scritto Davide Romano pochi secondi fa, chiamano la Zanzara? Giovanni, questa. Ma tu quanto sei fascista? Non ho capito bene. Io sono nato fascista. Come sei nato fascista? Quanti anni hai? Sì. 59 a giugno. Dunque tu sei nato fascista. Bisogna vedere se ci arriva. 59 anni fa c'era il fascismo, Parenzo? 59 anni fa. Beh, sì, qua era... nel 57 c'era il fascismo. No, direi nel 57 no. Non c'era, amico mio. Direi proprio di no. E allora che cazzo dici? Non è un sei post fascista. La mia tendenza è quella. La tua tendenza è quella. Va bene, diciamo. La sua testimonianza va bene così. Sono nato con il marchio fascista. Beh, e resti fascista, c'è vabbè. C'è una condanna in Italia a dichiararsi che sono... Secondo me no. Direi di sì, no, ad oggi. Poi si può cambiare comunque. No, non c'è niente. Dai, no, non si preoccupi. Uno può dire di essere fascista, non succede nulla, dai. Vuoi denunciare pure Giovanni della provincia di Foggia? Così oggi, no, per oggi carità, affolliamo i tribunali italiani di tue denunzie nei confronti di fascisti che chiamano la Zanzara? No, quell'altro è solo il nazista lì, quello sì. Giovanni, allora, che cosa vorresti fare a Parenzo tu? No, li voglio, siccome che sono ammazzati i maiali, sono un dottore che ammazzati i maiali, perché i maiali si devono ammazzare. Sì. E vorrei fare un'operazione a Parenzo, a tagliarmi un po' la lingua, così sta zitto per sempre. Non tagliare la lingua, diciamo nella, la tua quando eredità, è lucido di cosa si occupa? La tua eredità, diciamo, fascista l'hai come dire, mantenuta a pieno. No, ma quando lei è lucido, raramente, di cosa si occupa? Sono lucidissimo. Vabbè, questo è da dimostrare, ma di che cosa si occupa? Che mestiere che fai nella vita? Io ho fatto l'autista nazionale e internazionale. E adesso a 59 anni che straminchia fai? Adesso per motivi di famiglia devo stare a casa. Devi stare a casa. E come campi? Con quali denari campi? Ammazzando i maiali? Campo con altre risorse. Con altre risorse? In nero? Lavori in nero? Che sei? Sicuro. Che ne so? Cioè... No, che lavoro in nero? E che ne so? La provincia di Foggia? Che sei affiliato alla criminalità? Alla Sacra Corona Unita? Che ne so? Sì, cioè... sono un mafioso. E che ne so io, Giovanni? Tutto è non mi dici come guadagni. Vabbè, ciao amico mio, ciao. E com'è bello viaggiare sentendo la Zanzara. State ascoltando un programma offerto da Monge, il cibo naturale per cani e gatti con tanta carne fresca, senza coloranti o conservanti. La Zanzara. Allora ragazzi, voglio introdurre una roba, uno di quelli che si chiamano i temi, è una parola che odio. Voglio introdurre un tema. Ma magari nei prossimi, no, appunto, odio questo modo di parlare, però mi è scappato così, mi è venuto così, che riguarda il calcio e la partita che si giocherà sabato tra Juventus e Napoli, come sai, o se non lo sai te lo dico io. Sì, non lo so perché è una partita attenzionata dalle forze dell'ordine. No, ma non solo, molto importante per il campionato, che è stata un po' accesa dal nostro amico Liguori. Magari nei prossimi giorni ne parleremo con ospiti. Grande Paolone. Beh, insomma stai calmo a dire a te grande Paolone, perché Paolo Liguori, con una sorta di follia assoluta secondo me, ha detto che l'arbitro che è stato designato ha praticamente deciso di fare un favore alla Juventus. Il Napoli gioca meglio della Juventus, è più forte della Juventus, è in testa alla classifica, c'ha due punti di distacco, è sicuro, matematico, voglio farci la mia scommessa che ci sarà un errore arbitrale allo stadio. No, Paolo, direttore, allora, dai. Dite che sono un visionario, dillo. È sicuro, matematico, che ci sarà un errore arbitrale a favore della Juventus sabato prossimo allo Juventus. E che dice Auriemma? Che dice il mio amico Auriemma? Sentiamo, no? Auriemma. Ma perché lo devi pigliare che per il culo? Che dice Auriemma? Che dici? Qual è il tuo parere? In questo caso magari è d'accordo. Sì, appunto, sentiamo il signor Auriemma. Colleghiamolo, Auriemma. E con noi collegato alla Zanzara il signor Auriemma. Sentiamo, Auriemma. Ma perché lo devi pigliare per il culo? No, c'ha due palle così, Auriemma. Sì, per carità. Pan per focaccia avrà da me. Pan per focaccia. E intanto è arrivato in esclusiva, caro Parenzo, il nuovo palinsesto di Radio Maria. Oh. A partire dal 1° di aprile i programmi di Radio Maria saranno organizzati in questo modo. Alle ore 8 un programma che ha come titolo Buongiorno Immondo. Insulti, maledizioni sparse e contumeli a cura del direttore Don Livio Fanzaga. alle ore 14, anzi alle ore 12, una trasmissione dal titolo Famiglia Oggi. Famiglia, adesso mi viene la voce di Capanna. Di Capanna. Famiglia Oggi. Regole di sottomissione. Come servire l'uomo massaggiando i suoi piedi e stirando i calzini. Conduce Mario Adinolfi. Immaginavo, per forza, sì. Stira e si sottomessa sostanzialmente. Alle ore 14, un altro pregiatissimo programma dal titolo I più grandi criminali della storia. Puntate interamente dedicate a Galileo Galilei. Ah, però, ma perché? Un eroe Galileo Galilei. Alle ore 18:30, alle ore 18:30, ai fornelli con Suor Engelberta. E chi è Suor Engelberta? I segreti della cucina. Tempi di cottura per streghe ed eretici. Streghe eretici? Perché mai? Ma non esistono le streghe gli eretici. Alle ore 21, un programma dal titolo Vita. Come impedire a una donna di abortire? No, anche, anche se è stata stuprata. Ma che male. Conduce Costanza Miriano. Infine, alle ore 24, cioè a mezzanotte. Oh, si va a letto tranquillo, bene. Va de retro. E cos'è questo? A cura di Padre Amort. Gli ascoltatori posseduti da demoni possono chiamare lo 06 66 66 66 per essere esorcizzati in diretta. Non è possibile. Questo è il nuovo palinsesto di Radio Maria. Come fate ad averlo così? Non è possibile. Grande esclusiva della Zanzara. A partire dal 1 di aprile. E a proposito di Radio Maria, caro Parenzo, questa cosa qui che fra poco ascolterai farà molto molto piacere a Don Livio Fanzaga. Direi che è un tipo di relazione, un tipo di rapporto proprio inquadrato nelle norme decise, nelle fattispecie volute decise dalla religione cattolica. Un gentile signore che si è firmato Aldo De Marchis, anzi dottor Aldo De Marchis, sì. Ha scritto una mail alla Zanzara. Ecco, vedi. Siamo tre conviventi. Già che non l'abbia scritta a Barisoni, ad esempio, ti dà l'idea. Andiamo avanti. Siamo tre conviventi e siamo contro la legge delle unioni civili perché penalizza la nostra. Tre conviventi. Aspetta, perché penalizza la nostra unione a tre. È gravissimo che l'articolo 2 della legge Cirinà limita a sole due persone consenzienti la possibilità di instaurare un'unione civile con tutti i diritti conseguenziali. Fedeltà, assistenza, dimora. Cioè questo signore dice: io sono discriminato dalla legge Cirinà perché noi siamo in tre e vogliamo costituire una famiglia a tre. Ma come in tre? Amico mio. Signor De Marchis, buonasera. Buonasera, buonasera. Allora De Marchis, io ho scherzato un po', però io prendo molto sul serio questa sua mail. Lei che mestiere fa, signor Aldo De Marchis? Allora io sono aiuto cuoco in un ristorante. Lei aiuto cuoco in un ristorante, no, perché non sentiamo bene. Da dove è collegato? Da Napoli. Ho capito. Da Napoli, d'accordo. Ma come, con che mezzi tecnici? Col cellulare. Allora, sentiamo bene, tutto a posto, la regia? Sì, sì o no? No, perché siccome i collegamenti sono importanti, la radio si deve sentire, chiama da Napoli. Mi lasci prima dire che sono onorato di essere intervistato da voi, che vi considero i difensori della libertà di pensiero in Italia. Bene, allora, grazie, siamo molto contenti della libertà di pensiero. Allora, caro De Marchis, lei convive con chi esattamente? Con altre due persone, una donna ex lesbica, cioè già lesbica nel suo passato, ora etero, sì. Carmen. Sì. E con Giorgio, gay, però con alternanze di situazioni etero, nel senso che ambedue, io e lui, abbiamo rapporti con Carmen. Viviamo insieme, dormiamo nello stesso letto da 3 anni, dalla maggio del 2013. Attenzione, qui c'è una situazione. Un momento, credo di non aver capito. No, io ho capito benissimo, è una cosa assolutamente legittima, sì, secondo me. Per carità, anzi. Allora, c'è una signor De Marchis che fa l'aiuto cuoco, giusto? Sì. Eterosessuale, giusto? Sì. No. Da sempre, o bisessuale, no, ma forse bisex. In questa situazione bisex. Non è in questa situazione. Non è che è diventato. È dunque bisex, diciamo, sostanzialmente bisex. Sì, sì. C'è una signora lesbica che si chiama Carmen. Lesbica. No, è lesbica. Sì. No, era. Sì. Era lesbica, femminista convinta. Era. Partecipante a manifestazioni per i diritti delle lesbiche. E adesso? Accorta di godere fortemente e profondamente con noi due, più con me che con Giorgio, ma anche con Giorgio, voglio dire, ha rapporti. Anche se dunque, bisessuale pure lei, in sostanza. No. sì, eterosessuale. No. Però dove noi vogliamo puntualizzare, per cui no, aspetta, pensato, prima c'era il riassunto della situazione. Sì, certo. No, ha ragione Parenzo, perché bisogna chiarire. Dunque, non esatto. È, in realtà non è bisessuale, no. È diventata etero praticamente. Sì. Ha rapporti anche con donne, questa signora Carmen. Adesso no. In questo momento con questi due uomini. Invece questo Giorgio, il terzo, giusto? Sì. Che è gay, ex gay, sì. Che è bisessuale. Certamente. Dunque, tutti siete tutte e tre bisessuali in pratica. Anzi, no, due bisessuali e una eterosessuale. Sì, però noi contestiamo queste definizioni. Sì, beh, certo. Se vuole le dico perché. Beh, sì, perché certo. Noi sosteniamo la ma sembra De Luca, lo sai? Sembra De Luca quando parla. Sì, la logica. Sillogismi alla De Luca. Sì, alla allora, perché lei contesta queste definizioni? Perché noi consideriamo importante in senso naturale la vittorietà delle nostre tendenze o inclinazioni sessuali nell'arco della nostra esistenza, ma non solo di noi tre, pensiamo a questo per tutti. Cioè, praticamente Parenzo, hai capito? Tu dici di essere etero, ma in realtà quella è una definizione vecchia, dice lui, l'amico De Marchis. Lo rispetto con grande affetto. Siamo tutti un po' pansessuali, giusto? Lei è pansessuale. No, dipende dalle situazioni, dipende dal vissuto, ma certamente. Però non sono definizioni vecchie, dici tu. Sono definizioni vecchie. Io sto scrivendo un piccolo trattato che, se volete, le prime 15 pagine che ho scritto finora ve le invierò. Se volete, assolutamente, no, ma assolutamente. Che sì. Parla del perché, secondo me, secondo noi. In effetti ci domandiamo, si nasce gay o lesbica o è una scelta sessuale? Cioè l'importante, stiamo parlando di non confondere la scelta sessuale con la natura sessuale. No, questo d'accordo, sì. Ma mi scusi signor Aldo. E noi ci troviamo di fronte al legislatore, sì, che invade la sfera privata. C'è un articolo stupendo oggi sul Sole 24. No, però mi faccia capire, lasci stare il Sole. Mi faccia capire il menage che si verifica, è più interessante capire il menage che si verifica dentro questa casa tra questi tre, scusa. Cioè voi state praticamente insieme, dormite insieme e fate sesso anche insieme. Certo. Questo è interessante, certo, da capire. A volte uno dei tre può lasciare soli gli altri due se lo vogliono, quindi questa assolutamente. Non c'è una regola. Però il letto deve essere grande per dormire in tre, o no? È un matrimoniale un po' più grande, l'abbiamo fatto in legno, e abbiamo fatto dal fare un materasso. Ma come è nato questo rassemblement, diciamo? No, non è rassemblement. Ne abbiamo conosciuti in un bar di Piazza Bellini a Napoli, che voi conoscerete sicuramente. Sì, Piazza Bellini, certo. Vabbè, particolari del centro di Napoli. E ognuno di noi era con i propri amici, è nata prima una conversazione tra Giorgio e Carmen, sì, nella quale io, guardandoli da lontano, siccome volevo approcciare Carmen prima che lo facesse Giorgio, sì, mi sono inserito successivamente. Beh, quello però era gay o no? Sì, certo. E perché sì. Voleva approcciare Carmen allora? Perché era. Probabile che sia stata Carmen ad approcciare lui. Ah, ecco, appunto. Comunque vi siete conosciuti in un bar? Sì, siamo conosciuti così. All'inizio allora, si sono cominciati a frequentare solo loro due, sì, e infatti lì poi Giorgio in questi anni ci ha confessato che ha cominciato a rivedere le sue... E anche lei che era lesbica però. Sulla sua... parlo di Giorgio. Sì, ma anche lei era lesbica. Anche lei, ovviamente. Appunto. E prova un piacere, ha degli orgasmi. Assolutamente molto molto femminile. Ma questi sono fatti vostri, chi se ne frega. Beh, però è interessante. No, però chi se ne frega, voglio capire. Sole 24 ore mi racconta degli orgasmi della signora Carmen, con tutto il rispetto, però Aldo, dire... scusami, lei dice che adesso gode molto di più rispetto a quello che rispetto a prima? Sì, questo lei dichiara. Lei dichiara, ma non è un deputato, dice lei dichiara, no, va benissimo, no, no, rispetto al suo passato, dice certo, che assolutamente lei dichiara, certo l'altro, sentilo. Di andare con una donna, unirsi con una donna, con una. Non, dichiara, sente, no, non vuole più andare con le donne, ha dichiarato anche all'Ansa, no? Quindi siamo coperti. Allora, siamo però, coperti. Aldo, la cosa bella è che tra di noi non c'è tradimento, perché ci tradiamo tra di noi, quindi non c'è pericolo di separazione. Questa è una cosa. Beh, non andate con altri? È previsto il fatto che andate con altri oppure no? Siamo liberi di farlo, ma finora non è successo. Non è successo. Allora, voi in realtà volete fare una famiglia, questo è il punto. Certo, ci vogliamo sposare, però, e vogliamo avere un figlio che tutte e tre abbiamo deciso, sì, sottoscrivendolo anche, abbiamo lasciato nella cassaforte, sì, di un notaio questa dichiarazione, sì, che nessuno di noi si permetterà di fare il DNA dopo, se avverrà questa... Cioè, come lo volete fare questo figlio? Poiché siamo attivi tutti e due, nel senso che lo sperma sia mio che del mio compagno è buono. È Giorgio e Aldo. Giorgio sì, e Aldo. Giorgio e Aldo. Praticamente abbiamo deciso, sottoscrivendolo, che noi mai verificheremo chi è il vero padre naturale. Cioè, non ho capito, volete mettere incinta insieme la signora Carmen? Certo. con lo sperma di entrambi. Che la legge Cirinna preveda questo. Beh, non e lo mi sembra una follia, questo, ma chiedo scusa. Denunciare all'anagrafe con tre genitori. Ma perché bisogna fare delle follie adesso? Perché sono laico, liberale, liberista, libertario. Delle unioni civili. Noi assistiamo in televisione. Però anche è una mezza voi. Porcheria, dai. Dico, si può dire o no? Purtroppo, tutti noi assistiamo a delle schermaglie vergognose tra un lato però, i moderati e i cattolici che dicono sì, però adesso non ci, non ci allarghiamo qui la cosa sì, ma che roba il punto è però adesso se questo bambino dell'Unione Civile solo noi in Europa non abbiamo la legge sull'Unione Civile significa che se avessimo tutti la pena di morte in Europa e in Italia no. Qualcuno si alza e dice mettiamo anche noi la pena di morte perché tutta l'Europa... No, ma io non ho capito bene una cosa... Non hanno fondamenti, non hanno motivi perché confondono la biologia, cioè offendono biologia. Sì, però non andiamo alla filosofia. Voi volete praticamente che sia, legalizzata l'unione a tre, praticamente. Certo, e volete anche... Beh certo, attenzione. E poi volete anche mettere al mondo un figlio mettendo incinta la signora Carmen, ex lesbica, eccetera. Sì. Tu etero e Giorgio ex gay diventato etero con lo stesso sperma praticamente non si capisce come tecnicamente però come non con lo stesso sperma i rapporti certo nessuno no, può mischiando, sapere mischiando, quando è il momento del concepimento no noi continuiamo a avere i rapporti ovviamente. Beh certo continuiamo ad avere rapporti non poi... si sa poi chi sarà il padre ho capito non si sa chi è il padre tutto ma non senza si sa protezione neanche se uscirà incinta non sappiamo neanche se uscirà incinta. Sì, va bene. E volete che sia riconosciuto come figlio, come figlio di tutti e tre. Ma questo a voi piace un mondo così? Però ma davvero, chiedo la regia, scusa. Mi pare un po' complicato, francamente. È complicato pure che Elton John e suo marito abbiano a gestire un figlio che peraltro non è loro, il nostro è nostro. Sì, ho capito, ma il figlio... tendenzialmente almeno di una persona deve essere non può essere incerto tra due e rivendicate e volete pure che sia scritto che è incerto non certo, e avrà tre protezioni tre genitori quindi non ci sarà problema siamo veramente al top. Va bene, amico mio, io ti devo lasciare, magari torneremo su questa storia fantastica. Vorrei darle un messaggio da girare se la sentite alla Boldrini. Sì, però, dimmi la Boldrini, veloce, però. No, però non... la già abbiamo tanti cazzi con la Boldrini. Femminile, la Boldrini dice di mettere, a parte se schierata, è un'invasione di campo. Vabbè. La terza carica dello Stato vabbè. Non deve farle. Vabbè, vabbè, poi? Comunque, lei ha detto che si deve mettere tutto al femminile, sì. La presidente, sì, l'avvocato. Sì, sì, allora, lo sappiamo. Poi. Le suggerisco, e mi prendo la responsabilità, di dire che si deve dire la clitoride, non il clitoride, se lei insiste su queste stupidaggini di mettere al femminile per garantire i diritti delle donne. Per questo però devo dire la verità, può essere anche un'idea, caro signor Parenzo. Aldo, non la sottovaluto questa cosa. Io chiuderei qui, amico mio, sai? A domani. Abbiamo sentito abbastanza. A domani, oggi, a domani. Credo, Peppino. Ciao, coccolo. Eri di una sensualità. Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, so, alle 8. Ragione, lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere, ridere. Siamo ad alti livelli qua, Radio 24. La passione si sente.